I have been fed, that's a fact. I have been fed, that's a fact. My credit card purchases get me cash back. My credit card purchases get me cash back. No one else gets these rewards. Sergeant, that is just plain untrue. What in tarnation? Sir, PenFed's PowerCash Rewards Card isn't just for military members. Anyone can get cash back on all purchases. Ah, figgins! You've ruined my favorite song. PenFed Credit Union. Visit PenFed.org/PowerCash. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA. Signore e signori, l'universo è lieto di presentarvi il primo libro a fumetti de Il Capo, le prime 128 più 1 strisce quotidiane pubblicate sul sito Video Bigaz da Alex Raccuglia, con Il Capo. Muovetevi incompetenti! La fidanzatata Miki Contro. Ma quanto sei scemo! Il cane Palf. Uff, uff! Il micio Pomone. Meu! E naturalmente, i Minion. Capo, abbiamo un problema! Abbiamo trovato un altro bug. Vi farà ridere. Vi farà piangere. E vi terrà svegli la notte. Il Capo, le prime 128 più 1 strisce. Disponibile su iBook Store per iPad e Mac. Scopri di più su alexaracuglia.net/ilcapo. What the fuck? Sound design. Parlava? Ci stanno. Ci stanno i ho trovato dentro il cicchio un negro morto. Come si chiama il protagonista? Clark. Clark, il problema Clark non è il pianeta. Io sto qua sull'astronave, ho fatto i bucatini capagliata. Se fai presto può essere che ti avanza un po', però prima devi andare a accendere il motore. Possiamo tornare? Poi torniamo, grazie. Puoi tornare. 1, 2, 3. Italian Podcast Network presenta Fatality. Dietrologia videoludica, il lato B dell'industria del videogioco. 5 gennaio 2015, buon anno a tutti dagli amici di Dietrologia Videoludica. Iniziamo questo nuovo anno con le puntate consuete, sempre bisettimanali, sempre noi, sempre Gagliardi e Tosti. Questa volta però un team un po' diverso dal solito, sapete che noi facciamo il nostro fantastico turnover. C'è, anche se non ci doveva essere, cioè Marco Gualdi il distruggitore. Infatti, però, se sentite delle pause tra una frase e l'altra, perché potrei essere tagliato a seconda di quante poi quante tracce audio ci saranno alla fine. Esatto, perché i podcast di FM hanno dei fenomeni quantici che così ancora alcuni cercano spiegazioni. E se ne parla dall'epoca dell'ultima puntata della stagione scorsa di Archeologia Videoludica. Comunque, abbiamo anche direttamente, proprio da Archeologia Videoludica, ma non soltanto, e poi ci dirà anche lui i suoi canali, riferimenti cosa, quest'anno cambiamo i nomi ai programmi, cambiamolo A, ah, B, perché e sì, sennò ci impicciamo. Vabbè, Gianluca Santilio. Ciao a tutti, sono al debutto a Dietrologia Videoludica, nuovo anno porta questa cosa qua. Lo so, perché abbiamo deciso che i team quest'anno saranno tutti saranno misti. Questo è quello che credi tu, perché poi a fine serata vedremo dove ci sei. Taglieremo tutti quelli che... Esatto, sta vincendo. Va bene, se ci sarò, buon anno a tutti, sono comunque pazienza, insomma, buon anno lo stesso. Vai. Okay. E come si dice, chi non muore ritorna e ci riprova. Chi non si registra si rivede. Esatto. Oh, ritorna e sarai più fortunato. Ci abbiamo anche Marpo. Auguri a tutti, buone feste. Qui dicono che sono errori tecnici, ma secondo me è stata una censura di regime. Ma non entrerò in polemica. Esatto, anche perché tu hai detto poco, ma quel poco aveva senso. Quindi... Vabbè, in caso di errori tecnici, lui ha detto auguri a tutti. E... Ah, se non l'avete sentito, esatto, vi sta salutando. Va bene, allora diamo i riferimenti, che sono www.dietrologiavideoludica.it, che è il nostro sito. Dietrologia Videoludica lo trovate su Facebook e su Google Plus, quindi fate cerchi oppure fate mi piace, continuate ovviamente anche a condividere il materiale e soprattutto commentate gli episodi o i post che noi mettiamo, perché come sapete, insomma, ogni X escono anche una serie di articoli sul sito di Dietrologia Videoludica, che tra l'altro anche commentati e apprezzati, questo ci fa veramente piacere. Poi dietrologiavideoludica@gmail.com è la nostra mail, e dietrologia videoludica la trovate anche su iTunes, dove potete abbonarvi gratuitamente per questo podcast audio che state ascoltando, altrimenti non ascoltate, quindi che cazzo lo dico a fare. Ci sono anche i nuovi assets, che sono di Carlo Mix Buricana, che ringraziamo sempre, perché diciamo, tra i nuovi assets e il nuovo format, alcuni mi hanno detto sembra veramente una trasmissione radio. Grazie peccato per i conduttori. Peccato, perché dice un sacco di stronzate, però vabbè. Detto questo, a questo punto, proprio perché noi siamo velocissimi, andiamo subito con la prima rubrica, che è un primo avvio. Bravissimo. Con Maki Cazzè e Cesare Giraldi, che ci raccontano Metro Last Night. Primo avvio. Grazie per la linea, ragazzi, eccoci qui, io sono Maki in compagnia di Cesare, e questa sera a questa rubrica Primo Avvio ci dedicheremo a un FPS molto interessante, Metro Last Light, che ha giocato Cesare, quindi lascio la parola a lui, buon ascolto. Grazie mille, Maki. Allora, Metro Last Light, che cosa si può dire? Direi di partire dalla genesi di questo gioco, che trae ispirazione dalla serie di Dmitry Glukhovsky, serie di libri uscita in Russia ormai anni fa e che è stata tradotta in Italia, credo sia arrivata con multiplayer.it edizioni. E ormai si compone di vari libri, lo stesso Glukhovsky ne ha scritti due, Metro 2033 e 2034, e poi ne ha scritto un terzo, diciamo uno spin-off che c'entra fino a un certo punto con la serie. La cosa interessante di questo universo è che si espande sempre più, c'è un progetto di base che si chiama Metro Universe, in base al quale scrittori di varie nazionalità descrivono secondo loro come potrebbe essere l'apocalisse su modello di Glukhovsky, ma ambientata appunto nei paesi di origine di questi scrittori. Quindi c'è quella la trilogia che sta scrivendo, che non ha ancora finito, Tullia Voledo, per esempio in Italia, o anche quella di o anche altri libri, insomma, ad esempio un altro che è uscito in Russia che sto leggendo adesso, ambientato a San Pietroburgo, però di spessore minore. Andando alle trasposizioni videoludiche, si può dire che Metro Last Light è seguito diretto di Metro 2033, e in questo si distacca dai libri, dato che Metro 2033 prende direttamente dal volume dell'autore russo, mentre Last Light, essendo seguito diretto di 2033, non prende ispirazione da Metro 2034, che è un libro completamente diverso. Quindi l'incipit del gioco è molto avvincente, già solo quando si avvia all'interno della console questo titolo si viene accolti da una musica molto evocativa, da un'atmosfera oscura, e anche solo il menu è costruito subito in modo da farti immedesimare nel personaggio, perché si è posti in un carrello che scorre sui binari, e nel frattempo ci sono le varie opzioni che si possono scegliere dal menu, e vediamo dei mostri che ci passano vicino, eccetera. Quindi anche il menu l'hanno costruito in modo molto immersivo. Sì, poco rassicurante, sì. Esatto, molto inquietante fin dall'inizio. A livello di trama, essendo seguito di Metro 2033, parte dalla fine di quest'ultimo, in cui, senza fare troppi spoiler, abbiamo sconfitto, diciamo, i nostri nemici, ed è rimasto però uno di essi, un cucciolo alla fine, che è sopravvissuto, e quindi la prima missione sarà appunto cercare di catturarlo. Da questo ovviamente gli eventi precipiteranno, e attraverso una serie di disavventure il protagonista dovrà diciamo compiere questa missione. Senza fare spoiler, potete però intuire che la trama è più complessa del semplice catturare e uccidere il tetro, perché il protagonista stesso svilupperà un certo livello di empatia con questa creatura. Che cosa si può dire di questo gioco? Oltre al fatto della trama, si può dire che è estremamente d'atmosfera, estremamente opprimente, ed è un gioco che riesce a farti medesimare come pochi altri, e questa cosa è molto molto importante. Come ci riesce a fare questa cosa? Il metodo più semplice che utilizza è l'estrema fisicità. Quindi quando si esce nelle nostre scampagnate notturne nella Mosca devastata dalle bombe atomiche, dobbiamo appunto indossare una maschera antigas. Questa maschera antigas però andrà ripulita continuamente, perché la visiera si tenderà ad appannare per via della sporcizia dei fumi radioattivi. E soprattutto bisognerà cambiare i filtri regolarmente, perché ovviamente l'aria è irrespirabile, quindi c'è bisogno di continuare a pulire i filtri, appunto, che sono l'intermezzo che ci separa da un'atmosfera che non è respirabile. Che cosa si può dire altro di Metro? Abbiamo parlato di aspetti, diciamo, di contorno. Alla fine, che gioco è? È un gioco lineare, è un FPS, quindi un gioco in prima persona, e questo forse è il suo difetto maggiore, ossia non è in grado di offrire una grande libertà al giocatore, ma è alla fine un corridoio, un bellissimo corridoio, molto immersivo, molto d'atmosfera, ma pur sempre un corridoio. Quindi è un gioco che si esaurisce in poche ore, non ha nessuna forma di multiplayer, non ha nessuna forma di gioco cooperativo, e quindi finisce per venire a noia presto. Una volta finita la storia principale, si accantona, quindi anche la rigiocabilità è molto bassa. Ma in realtà c'è un episodio di cui mi hai parlato e che secondo me vale la pena dire, perché è anche abbastanza divertente come esperienza che ti è successo, ovvero di quel livello in cui ti sei bloccato, in cui dovevi bussare una porta e sei rimasto chiuso fuori. Ah, e... sì, questo è un episodio incredibile. Ce l'hai fatta per un pelo. C'è un livello, senza dire di preciso quale, però in realtà è abbastanza all'inizio, in cui esci appunto dalla metro, e una delle prime cose che fai è tentare di stare attaccato il più possibile al compagno che hai in questa uscita, perché ovviamente, essendo un mondo così devastato, con mostri volanti che ti passano sopra, con branchi di bestie feroci radioattive che pascolano nelle vicinanze, non è che hai molta voglia di esplorare, soprattutto con la paura dei filtri che finiscono dopo poco tempo, per cui non hai moltissimo tempo per guardarti intorno e per fare quello che hai voglia. Decisamente sì, anche perché poco prima di uscire di filtri ce ne sono pochi. Il tuo compagno ti dice: ah sì, è un peccato, abbiamo pochi filtri, però ce li dovremo far bastare. Quindi con pochissimi filtri nella prima uscita, tra l'altro io l'ho giocato nella prima run alla difficoltà più alta, quindi anche sta cosa ovviamente non mi ha facilitato, e quindi stavo dietro a questo compagno e cercavo di evitare i mostri, non farmi vedere e seguire le sue indicazioni, come ogni buon FPS insegna. E arrivato a un certo punto questo compagno ci avvisa che c'è un branco di bestie feroci e bisogna iniziare a scappare. Dopo averle eliminate in parte, si corre verso la stazione più vicina per avvisare del pericolo, della presenza appunto di tutti questi animali. E mi è successo che io in prossimità di questa stazione avevo quasi esaurito i filtri, e quindi per molte volte consecutivamente sono morto in un modo indecoroso aspettando che si aprisse la porta della stazione. E la cosa divertente è che la volta in cui ce l'ho fatta, in realtà io ero svenuto a terra nel frattempo che è partito il filmato dell'apertura della porta, quindi io non ho mai visto quella sezione di gioco, l'ho dovuto rigiocare quel livello per capire e per vedere quel filmato, perché io intanto ero morto, però si era attivato il filmato e quindi il gioco è andato avanti come se fossi sopravvissuto. In realtà ero steso a terra fuori dalla porta senza filtri, morto soffocato, però per miracolo sono riuscito ad arrivare al livello successivo. Una classica botta di culo. E vabbè, cavolo, dopo 18.000 volte lo facevo. E scherzi a parte, volevo anche chiederti riguardo al gameplay se è vero che si può giocare sia come un FPS normale e anche come uno stealth. Sì, è assolutamente così, a differenza del primo in cui lo stealth era un pochino più appiccicaticcio, diciamo, non era molto approfondito. In questo nuovo capitolo hanno inserito tutta la gestione delle luci, luci che è possibile distruggere oppure semplicemente disattivare, e tramite appunto questa nuova abilità il protagonista è in grado di muoversi tra le ombre e non farsi beccare. Chiaramente, non essendo uno stealth, c'è un minimo di forzatura, quindi spesso quando voi sarete nell'ombra, anche se il nemico sarà molto vicino, non vi noterà lo stesso. Però queste sono mancanze che si possono capire soprattutto per un gioco che alla fine non è uno stealth, ma è un gioco con delle componenti stealth. Per cui, tra le due modalità, secondo te qual è la più divertente da giocare come stile di gioco? Diciamo che anche per questione di immersività è più sensato giocarlo stealth, perché per quanto sia magari ti faccia notare un po' di bug del gioco, alla fine si vede che i programmatori hanno pensato che il giocatore dovesse giocare così per una questione di anche coerenza con la trama. Cioè, è poco probabile che in un mondo in cui hai poche munizioni, le armi sono mal ridotte, sei soverchiato dai nemici perché ti ritrovi in stazioni completamente nemiche, piene di soldati nemici che quindi ti vogliono fare il proverbiale mazzo, è evidente che il protagonista voglia evitare lo scontro piuttosto che andare alla Rambo. Io direi di chiudere con un rapido riassunto dei pro e dei contro. Io direi che, partendo dai contro in modo molto alternativo, direi che l'unica vera criticità, oltre al fatto che c'è solo una modalità di gioco, cioè la campagna principale, è la sua linearità, quindi il fatto che sia un FPS nella peggiore accezione del termine, cioè senza possibilità di scelte particolari. Invece nei pro va assolutamente la trama, che si vede che è basata comunque su un universo creato da uno scrittore decisamente capace, l'atmosfera e quindi anche tutto quel contorno di del fatto dall'ambientazione e fatto dalla sensazione in generale di grande oppressione. Direi che abbiamo chiuso. Cosa dici? Restituiamo la linea, allora. Va bene, linea allo studio, direi. A voi, ragazzi. Allora, avete visto Metro Ultima Notte? Che è avete visto soprattutto, esatto, con le orecchie, voi vedete, esatto, con le orecchie, esatto, sappiate. Perché qui noi facciamo, diciamo cose che non hanno senso. In realtà si chiama Metro Last Light. Last Light, l'ultima luce. E non l'ultima notte. Che si è smorzata la luce. Sì, si è smorzata. Una pagata, a bolla. Quindi quella è quella che viene dopo, l'ultima notte. Comunque, li ringraziamo Cesare e Simone, che sono stati bravissimi. Tra l'altro sono anche un commento abbastanza... Allora, queste informazioni di questa linea di libri fatti dalle persone che stanno sparse nel mondo e che dico, raccontano il proprio olocausto nucleare secondo la loro nazione. Ma anch'io sai che volevo farlo, potremmo fare Monte Rotondo 2033, esatto. Paese Monte Rotondo, cioè, manco c'è la metro, quindi sono le grotte, ci sono le grotte, hai ragione, e soprattutto già ci sono dei fenomeni particolari. Sì, è una cifra, quindi, voglio dire. Questo, voi sapete che questo è il paese illegittimo di David Lynch, l'ho detto anche l'altro giorno, ho visto delle scene, poi un giorno racconterò. Comunque, chi è che ha giocato Last Light? Io ho giocato, per esempio. Ti è piaciuto? Anche la Snipe, sì, vabbè, mi è piaciuto più il primo, il secondo me è poco, però ci sono le zizze. Ci sono le zizze? Le zizze, la Snipe, giustamente. Fanno sempre premiare. Tra l'altro c'è una fotogallery che presto verrà pubblicata. Anzi, ok. Anzi, io faccio una cosa, Cesare, se vuoi fare... No, ma non c'ha tempo, Cesare, non c'ha tempo, lascialo stare. Questo è giovane, studia, deve giocare. Erano solo 300 parole. Dice Gianluca e Marco, l'avete giocato voi? No, io non l'ho giocato. Beh, dai, che cazzo dobbiamo chiamare a fare? Infatti. Marco diceva che ha giocato il primo. Ti è piaciuto almeno il primo? E dopo un po' l'ho lasciato. L'hai accannato. Bello, cioè, tecnicamente sì, sono bei giochi. Non pagava il biglietto. Però, insomma, ha pagato il biglietto e quindi purtroppo non ho potuto prendere la metro. Bravo. Bene. Piuttosto, vabbè, però, a me Metro Last Light mi fa venire in mente una cosa di cui magari parleremo forse tra un pochino. Come mai i russi riescono a fare così bene queste atmosfere un po' horror, un pochettino così opprimenti? Forse per il loro background storico, per la vicinanza a Chernobyl. Cioè, tenete presente che lo sviluppatore dei Metro, e quindi anche di Stalker, che era un po' il prequel di questi qui, è ucraino, adesso sta a Malta però comunque è ucraino, quindi hanno vissuto da vicino la paura della mutazione di tutte queste cose, che chissà che cosa si è raccontato negli anni 80. Beh certo, penso che il fattore Chernobyl abbia influito tanto, anche se però poi già nella letteratura ricordiamo i giapponesi russa. Insomma, che grazie a Hiroshima e Nagasaki ancora ci vanno avanti, insomma da Goldrick e poi no vabbè, ma anche nella letteratura russa comunque molte tinte cupe in generale, quindi penso che si faccia anche un po' parte della loro estrazione culturale, insomma. Però ecco, no, quello che c'è da domandarci, quello che c'è da domandarci è il fatto perché, e questo ce lo stavamo domandando, non mi ricordo quando e con chi, dice perché adesso anche in Europa, anche i paesi più improbabili o come un paese giovane, diciamo, al nuovo mercato come la Russia, riescono a fare produzioni videoludiche di grandissimo spessore, e noi siamo veramente l'ultimo paese, cioè l'unico paese, anzi siamo veramente sì gli ultimi. Però ti dico che in Russia ora io faccio sempre queste cose qui su YouTube, e ti dico che già da 10 anni fa, anche 15 forse, c'era una produzione di titoli abbastanza mediocri, però comunque sia c'era attività, c'erano molti esperimenti, quindi ci hanno sbattuto la testa prima di noi. Oggi sono più preparati proprio dal punto di vista tecnico, cioè comunque loro si presentano sfruttando bene un engine, creandoselo da solo. Cioè 15 anni fa anche un piccolo stato come la Croazia c'aveva il Crow Team che faceva Serious Sam, per dire. Quindi insomma siamo noi che non abbiamo avuto la capacità tecnica di andare avanti, anche probabilmente, e anche l'infrastruttura sicuramente sì. Beh, sì, diciamo sì, che a noi ci è mancata anche un po' la cultura. Bonaventura Di Bello in un'archeologia videoludica disse che fu proprio quella pirateria selvaggia degli anni 80 che in qualche maniera castrò proprio l'industria. Beh, l'industria nascente a un certo in Italia punto, beh però devi considerare che in effetti loro facevano un raffronto, e questo lo disse anche Dino Dini poi successivamente, che quello che una, diciamo, un editore ti pagava per fare un videogioco in Italia non era quello che ti pagava per farlo in Inghilterra. Cioè in Inghilterra comunque ti pagavano magari 5.000 sterline, e qui ti pagavano 200. Pure 20 anni che c'è, pure più che c'è stata legge sulla pirateria. Negli ultimi 20 anni noi siamo rimasti. Sì, però cioè quella era stata negli anni 80, c'è stato il momento in cui nasceva l'industria. Ok, e tant'è che ovviamente non c'erano poi tanti sviluppatori indipendenti, cioè c'erano delle case, delle software house che venivano a dette e dicevano: ah, sei bravo, vuoi fare questo gioco per me? Ti è pia di 5.000 sterline, e te davano 5.000 sterline. In Italia davano 100.000 lire per fare un gioco, cioè questa è forse la sostanziale grande differenza, perché il ricavo che c'era in Italia era massificato in cassette che praticamente distribuivano con 150 giochi dentro, invece in Inghilterra comunque vendevano una cassetta col gioco. E poi vabbè ma non per uscire troppo fuori tema, però comunque io ricordo che quando ero piccolo si diceva che il computer, anche nelle pubblicità che vedevamo, era la cosa che ti aiutava a fare i compiti, che ti aiutava, cioè si aveva una concezione del computer lontanissima dalla realtà. Sì, invece in Inghilterra terra c'erano delle fiere, se tu leggi magari lo sviluppo anche di quando abbiamo fatto la puntata sul calcio, Andrew Spencer era andato a parlare con delle persone in una fiera, aveva trovato degli altri sviluppatori, aveva incontrato aziende, software house, quindi c'era proprio tutto un meccanismo. Noi le software house, diciamo a distribuzione più ampia, le abbiamo avute inizio anni 90 con Genius, Idea, Simulmondo, queste qui, ma tutto prima non c'era stato, c'era stato poco. Noi abbiamo avuto anche una realtà come la Zaccaria per il CoinOp, che poi è stata lasciata a morire senza altri investimenti, insomma. Vabbè, no, sì, non c'è supporto da livello, diciamo, statale centrale, concepire sì, aziende che si basino su fare i giochini. Lo Stato lascia stare, insomma. No, ma in realtà no, però... guarda che se tu vedi analogicamente all'industria cinematografica, all'industria del videogioco o anche dell'informatica, però è diverso. L'industria del videogioco in Italia in realtà non si è mai sviluppata, nel senso è stata sempre legata a determinati canoni. Poi in Italia c'era anche un preconcetto culturale su tante altre cose, quindi vabbè. Ma comunque questa non è assolutamente comunque la trasmissione per parlare di questo. Io mi stavo annoiando. Esatto. No, ma non è per questo, che è anche interessante. Il problema è che purtroppo di solito cerchiamo, ecco, di anche stare, perché per questo è la discussione tempi che abbiamo allungato. Marco non potrà più fare. No, glielo facciamo dire, perché in realtà Broforce, che è il gioco che porta Marco, schermata insistentemente, esatto, porto. Che è il gioco che ci ha raccontato l'altra volta e che non avete sentito, quindi può raccontarci, ma meglio, meglio ce lo vorrà, meglio. Che è più allora, preparato, allora ci vuole preparare anche noi. Allora, Broforce è un gioco in accesso anticipato della Free Lives Games. Ah, aspetta, allora è un accesso anticipato, ho sbagliato. Sì. Sigletta. Eccessi anticipati. Ecco. E no, pensavo non doverlo più fare, quindi sono un attimo fermato. Allora, è un gioco, è un platform alla Super Mario, molto pixelloso, dove però il protagonista invece di saltare, distrugge tutto, spara a tutto e spara ai nemici della libertà. Infatti siamo alla guida di un gruppo, che è appunto questa Bro Force, formata da Bro, che portano la libertà americana in giro per il mondo. È insomma una grandissima parodia degli action movie degli anni 80. Niente, quindi bisogna distruggere questi nemici della libertà alla guida di questi parodie di protagonisti dei film degli anni passati e gloriosi. Il gioco ha due meccaniche fondamentali. La prima è la distruzione, è bella ma va controllata, perché se si distrugge tutto lo scenario non si va più avanti e finisce la partita. Sembra elementare, ma realmente non lo è, perché nel gioco viene voglia di distruggere un po' tutto. Il secondo elemento è quello costituito dai prigionieri, ovvero quando si parte da un livello bisogna andare da destra, attraversare un livello, andare a sinistra e alla fine uccidere il nemico di fine livello, che tra l'altro solitamente è un innocuo diavoletto che in belle non fa nulla. In questa partenza e arrivo si trovano sparsi nel livello alcune gabbie con l'interno dei prigionieri. Nell'inizio del livello si comincia con una vita e l'unico modo per aumentare le vite del giocatore è liberare questi prigionieri. Però questi prigionieri, una volta liberati, prendono posto, il posto del personaggio che si guida in questo momento, e casualmente si può trovare un personaggio, un altro bro, migliore o peggiore del precedente, perché ce ne sono alcuni, non sono tutti uguali, sono assolutamente diversi. Il esempio, il personaggio di Brambo, che sarebbe la parodia di Rambo, è il personaggio medio sia come arma che come abilità, come arma speciale. Ma bello quando cascano esplodono in schizzi di sangue. Sì, poi soffitto. C'è una meccanica molto sofisticata, non sembra. Ad esempio i cani, ci sono dei cani all'interno del livello che quando si uccidono dei nemici li mangiano, diventano dei super cani cannibali ancora più forti. E ci sono queste piccole cose in mezzo. Un altro personaggio che si può avere, ad esempio Brommando, sarebbe la parodia di Commando, ha un'arma più forte ma poco gestibile, fino ad arrivare a personaggi più estremi che per saper padroneggiare bisogna perdere tempo, regalano soddisfazioni. Un esempio, uno su tutti è MacBro, che sarebbe la parodia di MacGyver, che sì, utilizza dei candelotti di dinamite e come arma speciale ha un pollo con un tacchino guarnito di dinamite. Quando lo si lancia i nemici curiosi vanno a vedere e poi scoppia. Questa è la seconda meccanica, quindi a secondo del nemico, del personaggio che si guida in questo momento, che ci capita di guidare, si può trovare delle difficoltà o delle facilità all'interno del livello. È un gioco abbastanza avanzato come sviluppo, dovrebbe uscire nel 2015. Le cose che sono da perfezionare sono fondamentalmente delle imperfezioni nei caricamenti. Ci sono delle schermate nere, durano un po' troppo, ma per il resto il gioco è completo. Tra l'altro dovrebbe uscire, oltre che su Microsoft, non so se già l'ho detto, su PC, dovrebbe uscire sia su PlayStation 4 che su Xbox One, su PS Vita, insomma un po' su dappertutto. Ci sono tantissime modalità, multiplayer, insieme, contro, tanto tante cose da fare, modalità tempo, sfide, e c'è una corposa modalità online. Che poi questo è praticamente il veramente del scuola indie attuale, nudo e crudo, gioco duro e puro, insomma, perché sì, sì, è proprio, anche abbastanza tosto, insomma. È addittivo, devo dire la verità. Una volta preso, anche morire 12.000 volte, è di essa comunque divertente, per i vari elementi che ci sono nascosti. I personaggi sono fantastici. Un'altra volta quando l'abbiamo raccontato ci siamo spaccati a risate, perché era una novità. Oggi riguardarlo non è più una novità, qualità, ma è chiaramente palesemente divertente. Ci sono veramente i personaggi che abbiamo visto al cinema e in televisione. Commando, MacGyver, Walker, Tex Render. Sì, assolutamente. Sì. Conan, Distruttore, tantissimi personaggi. Darth Vader a un certo punto, se non sbaglio, quindi bellissimo. Ma forse l'hanno aggiunto, perché periodicamente nelle varie aggiunte che fanno aggiungono personaggi. Adesso credo siano arrivati a 25. Tutti con armi diverse, insomma, molto divertente. E il costo, l'acquisto tuo? Cioè di questo... 12 euro. 12 euro, ok. E il gioco ha detto che sostanzialmente... Il gioco adesso si trova, insomma, su Steam e... No, dico è comunque già abbastanza completo, insomma. Sì, sì, ce ne sono delle perfezioni nei caricamenti. Non, mi sembra non mi sia mai crashato o problemi di sorta. Devono fare dei piccoli miglioramenti, ma il gioco in sé si regge da solo, diciamo così. Perfetto. E Gianluca, tu l'avevi? No, lo conosco di fama perché poi mi è capitato di ascoltare, insomma, pareri di tante persone. Sì, sembra uno degli accessi anticipati più promettenti. Chiaramente è uno di quelli anche più completi, come dicevate giustamente. Adesso su Steam c'è questo grosso problema delle beta messe a tempo indeterminato. Noi ci abbiamo fatto una puntata intera su questo fatto, quindi... Appunto, quindi insomma, ecco, no, molto promettente, molto promettente. No, è che purtroppo io non c'ho più l'età per mettermi a giocare a queste cose, però devo dire la verità che... Beh, puoi giocarci a tempo perso. Sì. Lo so, però io apprezzo e invidio da una parte Marpo, perché nel senso lui lo ricava comunque magari il tempo per... Io non ci spenderei 15 euro in accesso anticipato in generale, proprio anche se fosse il gioco più completo. Però diciamo che mi piacerebbe giocarci, divertirmici un po', solo che quel pochissimo, niente tempo che ho lo dedico totalmente a Dragon Age adesso, quindi purtroppo è un po'. Va bene, avete altro da dire, Marco? Tu... No, bello, voglio vedere Darth Vader. Vuoi vedere Darth Vader? No, noi andiamo avanti nella trasmissione, perché francese. Purtroppo la trasmissione deve andare avanti. Non so se tu... Ciò che ti dispiace, però insomma... C'era MacBro. Ok, MacBro. MacBro. Ok, allora, Osservatorio Videoludico. Osservatorio dietro ludico. Perfetto, allora, come abbiamo detto, anzi non l'abbiamo detto, ma lo diciamo, questa è la 3X07, ma 67 puntate già abbiamo fatto, vedi che stiamo andando di corsa. Purtroppo, infatti fermiamoci, ma può essere che un paio di settimane di ferie se le famo, può essere pure. Potremmo farla a Natale, invece no. No, avete visto, anzi noi andiamo in ferie quando voi ritornate. No, allora 3X07 non mi fai paura perché avevamo detto tante volte, anche con Marco riflettendo, guardando... insomma alcune immagini, un po' le meccaniche di gioco, poi tu mi pare ci hai giocato a Devil Within. Sì, sto ancora a giocare piano piano. Esatto, prendendo spunto da quel gioco lì abbiamo fatto delle riflessioni e abbiamo detto parliamo un po' dei giochi horror. È vero che in parte ne abbiamo già parlato anche giocosamente in una puntata che abbiamo fatto di Halloween, però esatto. Qui questa volta cerchiamo... era uguale a questa, però adesso la facciamo un po' diversa. Beh no, insomma abbiamo parlato dei giochi e adesso cerchiamo magari di capire anche il risvolto delle meccaniche, sia dal punto di vista del linguaggio che dal punto di vista del gameplay, cosa piace, cosa non piace, cosa è voluto, che cosa è involuto, diciamo così. Perché, e partiamo proprio da, facciamo un attimo partiamo dai primordi, insomma, dai primi vecchi videogiochi che molti rimpiangono anche. E cos'è che ci faceva paura dei vecchi videogiochi horror di paura? Partendo da Marco, poi Gianluca e poi Marco. Beh, i miei primi videogiochi horror penso siano stati Konami. Chi? I Konami? Konami. Ah, Konami. Konami e Capcom. Quindi Silent Hill. E Capcom. Quindi, Capcom, e Resident Evil. Resident Evil. ovviamente Collina Silente. E questi sono stati due giochi, però facevano paura, perché lo zomba poi fa paura, quindi giustamente deve far paura. Però essendo un prodotto comunque giapponese c'era anche una trama un po' particolare in Silent Hill, molto ingarbugliata, cervellotica, quindi c'era un po' di tutto. Poi da lì più vecchi non mi sembra di aver giocato giochi più vecchi horror, quindi probabilmente mi sono abituato a questi giapponesi. Poi sono venuti altri come un Alone in the Dark. Sì, allora ti sei perso una belle generazioni dei giochi horror. Vabbè, ma tanto non li guardo adesso e mi fanno paura uguale. No, non credo. Infatti, esatto. E quindi niente, da lì posso dire che quelli sono le mie prime esperienze, insomma. Poi un Alone in the Dark New Nightmare, erano due CD per PlayStation, un fantastico CD1, uno schifosissimo CD2. Sì, ma la domanda era anche cosa, cioè, cos'è che ti faceva paura? Adesso ci arriviamo. In realtà non lo so. Allora, cosa mi faceva paura? Nei vecchi giochi horror, non tanto lo splatter. Quello non. Vabbè. Beh, lo splatter, diciamo, è più. Sì, infatti non. Tende più a scioccare che a spaventare. Esatto, però comunque cerca di dare una. Comunque un'enfasi maggiore, non tanto quello, anche perché venendo comunque dai martedì di paura di Italia 1 con lo zio Tibia eccetera eccetera, insomma, quindi lo splatter, insomma, era abbastanza superato. Erano i colpi, le tecniche classiche utilizzate poi nel cinema, quindi i suoni che improvvisamente scoppiano dal nulla, mostri che ti arrivano all'improvviso, cioè il colpo. Quello che ti fa saltare sulla sedia quando vedi un film, o semplicemente quando stai a farti i cavoli tuoi e senti una botta fuori dalla finestra. Beh, però forse il fatto che stai anche giocando, secondo me, un po' amplifica questa cosa. In che senso? Perché comunque, cioè, quando tu vedi il film di paura, il film di paura ti fa paura. Se ci sono tutti questi elementi di linguaggio, appunto, che hai detto te, che comunque sono classici ti fanno trasalire, soprattutto le prime volte, no? Il fatto che tu stai giocando, quindi oltre alla paura del colpo che ti viene, c'è anche il fatto che non vuoi morire, cioè il personaggio, tu sei attivo nella narrazione. Per questo c'è anche la cosa che tu nel film stai lì passivo e sai che andrà avanti, cioè chiudi gli occhi, c'è due ore, deve durare, puoi metterti il dito nelle orecchie, esatto. Puoi anche fare altre cose, ma il film poi va avanti. E il gioco peggio, perché tu stai lì, stai davanti a una porta e la devi aprire. E che cosa aspetta? Che fai? Che fai? L'apri o no? Torno indietro, aspetto un altro po'. Lo sai qual è la cosa brutta? Che quando tu vedi il film dici: guarda sta stronza, sta a apri quella porta che non la deve aprire. E invece tu su giocati, devi aprire per forza. Cioè, se no, e sei tu lo stronzo che la devi aprire. Esatto, guarda che stronzo. Mi tocca andarla ad aprire. Vabbè, andiamo a Gianluca. Andiamo a Gianluca. Senti, il gioco con cui ho cominciato io la mia esperienza horror si chiama Dragon Skull, ma non è neanche horror. Vi mando il link in Skype, nel caso non lo conosciate. Era un gioco della Ultimate Play the Game, che era la vecchia Rare. Era di esplorazione, però c'erano i teschi e i mostri che mi facevano paura. Questo per dire cosa? Che fondamentalmente era l'ingenuità che ci faceva tanto paura, che ci causava tanto paura, perché non avevamo mai visto quelle cose noi fino a un certo punto. Addirittura qualcuno si spaventava con Haunted House su Atari VCS, per dire che aveva due occhi nel buio, sì. e nient'altro. Beh, esatto. Scusa, Dragon Skull. Sì, tipo c'era quel teschio all'inizio che ti seguiva con gli occhi. Video, che... Vediamo che sì. Ti segue. Che io questo gioco l'ho giocato in una delle tante collezioni, si chiamava Attento al teschio, magari. Sì. Beh, probabilmente guarda, sì, guarda, ma anche io. Occhi al cranio. Esatto. Ma io l'ho scoperto un paio d'anni fa come si chiamava. Quindi anch'io non sapevo niente. Mi sono dimenticato di Doom, scusatemi, ma anche Doom. Doom anche 64, Doom. Per esattezza. Vabbè, poi ci arriviamo alla citazione dei giochi. Nel mentre, vabbè, comunque Gianluca, vai. Sì, no, ti dicevo, quindi c'era questo... per lunga parte, secondo me, per me, ma penso un po' in generale, è stata la paura di vedere per la prima volta delle cose, anche se solo relativamente spaventose, con le quali interagire. Quindi eravamo noi come avatar all'interno di un ambiente magari assolutamente carente in fatto di dettagli, di atmosfere e tutto quanto il resto, però c'eravamo, no? E quindi... prima del 3D, prima della grafica definita, c'era già questa possibilità di fare paura. Io, vabbè, l'ultima citazione che faccio prima di addentrarci eventualmente più tardi su nomi più precisi di giochi sono state le avventure della Horrorsoft, no? Elvira, per dire. Sì. Per me Elvira era assolutamente inavvicinabile, troppo spavento, tutta questa magia nera, queste cose così, che poi magari nei film vedevamo con molto più crudezza e con chissà cosa, però nel videogioco, nel momento in cui tu sei lì, e appunto come diceva Marco, il gioco non va avanti se tu non vai avanti, se tu non hai quest'atto di volontà di voler proseguire e volerti spaventare, fondamentalmente accettare di spaventarti, il gioco resta fermo. Quindi appunto forse è questo, faceva paura che lo spavento dipendesse da te. Tu dovevi innescare i meccanismi per il terrore, quindi non è il film dove ti copri gli occhi, il videogioco voleva che fossi tu a dare il via a tutti gli eventi. Secondo me questo faceva molto paura all'inizio e poi ci siamo un po' abituati, forse. Sì, mi piace. Marpo? Io invece, se devo parlare proprio di horror che mi hanno turbato, il primo era un arcade che era Chiller, ma credo sia Killer, sì, che era uno sì, sì. Spara un gioco con la light gun, che era angosciante, era terrificante, perché era di un sadismo incredibile. C'erano delle persone, in un livello c'erano delle persone messe in vari aggeggi di tortura, tra vergini di ferro, presse per la testa, e praticamente lo scopo del gioco era semplicemente sparare contro questi poveretti e azionare le macchine, torturarli e praticamente farli a tocchetti. E basta, lo scopo del gioco era questo. Ed era di una... era terrificante la sua così semplicità, però anche quello che si faceva. Perché comunque si torturava direttamente, i cattivi praticamente eravamo noi. E questo... E anche questo qui fa paura anche adesso un po', secondo me, nel senso che è talmente crudo che... Sì, proprio un ribaltamento totale, i cattivi in questo gioco siamo noi. E poi Splatterhouse, vabbè, esatto. Grande classico. Best Monster Kill. Mi sbaglio, ne avete parlato in Retrocast una volta? Forse di Killer l'abbiamo citato en passant. Killer o Chiller, non so come si dice. Chiller. Forse Chiller. Chiller. Sì, Chiller. Chiller. Di Splatterhouse, che poi è tutta una saga, no, non abbiamo mai parlato. E questo è un gioco, diciamo, il minimo contatto videoludico con l'horror. Più recenti, poi fondamentale, Alone in the Dark. Che c'è anche da considerare il fatto come si fa a farsi spaventare da dei personaggi fatti di triangoli che camminano tutti un po' geometrici, un po' azimati. Allora, a questo punto lo diciamo che comunque a gennaio, fra insomma in questo mese, ovviamente anche con l'idea e insomma il lavoro che sta facendo anche Gianluca, uscirà proprio la puntata di Archeologia Videoludica dedicata ad Alone in the Dark, e oggi stavamo nel nostro gruppo di lavoro, stavamo facendo le simpatiche battute, sono dei personaggi, come faceva a fare paura appunto, come ha detto Marpo adesso, un personaggio con la testa a triangolo, io ho detto beh, perché erano personaggi un po' spigolosi, insomma, sì, diciamo, un po' scomodi. Sono battute nell'erità generale, esatto. No, solo Chiller è terrificante, però sì. Io mi ricordo che ne avete parlato, mi sa, in un Retrocast, sono abbastanza convinto, non io, a mia discolpa, forse come si chiama, Vittorio probabilmente, forse ne ha parlato lui, che poi è uscito anche su NES in una versione straedulcorata. Non capisco come possa essere diverso il gioco, se è proprio un altro gioco, però l'hanno convertito, è con le paintball probabilmente. Ma io non capisco proprio il senso del gioco, però mi dirai anche. Sì, no, il senso è che sei tu il malvagio che si ammazza la gente in un modo abbastanza cruento, vabbè, non entrando nei dettagli, insomma c'è una ghigliottina, guarda che roba. Sì. Devi per forza farlo, cioè io l'unica volta che ci ho giocato, perché poi ero bimbo, quindi come si faceva all'epoca, ero quello di bambini che si mettevano ai lati del cassone a gufare sostanzialmente, però comunque a guardare gli altri giocare. Una volta che ci ho giocato pensavo che bisognasse in qualche modo salvarli, invece no, bisogna proprio interagire. Li stai salvando per no. Vabbè, e che cos'è secondo te che faceva paura di questi primi giochi? Io ho una mia teoria, ovvero l'horror, il genere in se stesso come materia, è uno di quei generi che guarda più rispetto ad altri i propri spettatori. Si basa molto su quello che fa paura, si pensa possa far paura a chi poi ci giocherà o lo vedrà, se è un film. Se, che ne so, c'è il Dracula con Boris Karloff che non fa mai niente se non che occhieggia dietro il mantello, e all'epoca la gente nel 32 si spaventava. Adesso, già negli anni 50, ci rideva. questa cosa vale anche adesso. Beh, una volta si spaventavano pure se il treno andava verso l'inquadratura. Sì, perché siamo noi che siamo cambiati, non è tanto il videogioco. All'epoca, che ne so, l'Unità Dark, mi ricordo quando ci giocai all'epoca, faceva paura che da una porta a un certo punto, mentre tu stavi facendo un'altra cosa, potesse uscire un coso, perché come si può definire, un mostro che faceva bu. Adesso un poligono, sì, qualcosa a sbuffo, due triangoli che camminano. Esatto. No, che poi se tu ci pensi, Alone in the Dark, come ho detto, oggi faremo veramente questa puntata che non vedo l'ora, perché è veramente bellissimo anche soltanto parlarne. Cioè, in realtà, se tu lo vedi oggi, è il gioco meno d'atmosfera dell'universo. Cioè, non ci sono luci, non ci sono ombre, è tutto smarmellato. Tutto, no? Come... però all'epoca voi eravate diversi. Perché sì, esatto, ma esatto, infatti secondo me, perché forse il senso della puntata è anche questo, quanto poi in realtà, sebbene i medium siano cambiati, in realtà secondo me sono cambiate proprio le generazioni, no? È cambiato la quantità di quello che usufruisci, che inevitabilmente modifica anche il modo in cui questo ti condiziona o ti influenza o ti suggestiona anche, posso, no? Perché, posso fare una piccola chiosa? C'è un film terrore horror che uscì adesso non mi ricordo il titolo, che praticamente parla di una maledizione che viene trasmessa tra i vari personaggi del film quando fanno l'amore, praticamente. Ah, Lights, praticamente. Sì. Cioè, che... no, io penso fosse il titolo del... non mi ricordo il titolo. Lights, sì, è quello il film. È una maledizione. Uno dice che dei giovani che quando fanno l'amore, chi ha fatto l'amore, cioè quello che ha fatto, che aveva la maledizione, la trasmette all'altro, che praticamente viene inseguito da dei mostri. Quando fa l'amore con qualcun altro, questa maledizione passa a un altro. Cioè, come trama, probabilmente adesso c'è un pubblico, probabilmente per farla, se sarà qualcuno di chi si vede, come si chiama, non dico adolescenti, però comunque qui vanno a vedere i film horror oggi, giovani che si spaventano con questa trama. All'epoca no. Ma che la generazione moccia si spaventi con questo non mi sorprende più di tanto. Dipende sempre dal pubblico che c'è, francamente. In realtà si spaventa. O va a vedere Zizze. Può darsi. Se gioca a metro la slide. Esatto. Ah. Oh, ma sì, ma ce ne stanno tanti dei giochi. Ma basta anche The Witcher. Mm. Che lì ci sono più dei Zizze. C'è anche materiale per ben altro. Pure. Ma non c'è neanche l'horror, sì. Vai direttamente. Sì. No, va bene. The Witcher, soprattutto il secondo, è quasi un film porno, insomma. Va bene, ragazzi, perfetto. Allora, vediamo un attimo, l'avete un po' detto, insomma, però proviamo un attimo a fare un... perché poi anche io volevo un po' di la mia, cioè nel senso sul discorso di qual è veramente, secondo voi, non quello che vi ha spaventato di più, ma il gioco horror più importante, insomma, della storia dei videogiochi, che ma non solo per dati o per questioni statistiche, dico proprio secondo voi, quella è la vostra opinione, Marco. Beh, io penso che ce ne siano due che mi vengono, ma forse tre in realtà, che sono quelli che poi ho citato prima, le Silent Hill, Resident Evil. Vabbè, c'è stata una cifra dei giochi, c'è stata una cifra, ma secondo me quelli comunque hanno segnato un po' il passo, cioè hanno dato l'incipit a quella che è stata poi l'invasione dei survival horror. Poi magari sì, ce ne sono stati prima e ce ne sono stati tanti anche dopo, però secondo me hanno avuto la loro importanza proprio perché hanno magari azzeccato il periodo giusto della storia videoludica, insomma, si sono buttati proprio quando il medium videogioco era ancora quasi acerbo. Adesso invece quando il ferro era caldo, diciamo, infatti forse perché sono quelli che hanno azzeccato probabilmente la tempistica. Beh, penso che quelli siano abbastanza importanti. Poi non me ne vengono in mente, cioè potrei citarne molti altri, ma in realtà quelli che poi mi sono rimasti più ma dimmi impressi, uno che secondo te, per te proprio in assoluto, quello che mi ha fatto più caga sotto, ce ne sono tanti. Ci sta per esempio Outlast, ultimamente quello mi ha fatto... Quale? Outlast. Ah, Outlast, non Outcast, Outlast. E quello Outlaw, per la cena. È un po' diverso. Esatto. Outlaw è un vecchio gioco della Lucasfilm, era uno sparatutto western. Sì. Quello insomma mi ha fatto parecchio paura, insomma, quindi ci giocavo piano piano lì. Oddio, poi andava, che poi lì devi con le cuffie, sempre con le cuffie al buio, perché sennò non c'ha senso giocare a un gioco horror. Potrei dirti quello che ho detto prima: il primo CD di Alone in the Dark the New Nightmare. Il primo CD, il secondo è una minchiata atroce. Il New Nightmare quale sarebbe? È quello che dove ci stanno i due personaggi. Cioè il quarto, praticamente. Ah, il quarto, ok. Carnaby e Alice Drack, che passano nella stessa. L'avevo messo anche sul divisi, primo, volendo, era così. Che vengono divisi, però lì ci sono proprio, sono proprio i pezzi. Ma era quello per PlayStation 2, eh? PlayStation 1, sì, sì. Uno, io c'avevo per l'uno. No, c'era, sì, pure per l'uno. Uscita era fatto incredibilmente bene per l'uno. No, io pensavo che ce l'avevo su PlayStation 2. E c'erano dei pezzi, mai... a parte degli enigmi veramente stronzi, ma poi c'erano pure dei pezzi in cui proprio saltavo. Cioè, degli enigmi che tu li incontri e dici a stronzo. Quanto sei stronzo. Io lo dicevo proprio col cuore. Col cuore e ballo. E c'erano proprio dei pezzi in cui ti faceva proprio fa la cacca addosso. E anche lì dici quanto sei stronzo. Pure lì, sì. No, mi ricordo i pezzi. No, sono entravi New Nightmare. Dentro. Mi dispiace perché io lo comprai. Però penso che. Guarda, non ti sei perso niente in realtà. Cioè, ti ripeto: il primo CD è ambientato dentro la villa, il secondo in questo universo parallelo, il secondo puoi anche buttarlo nel secchio. Ah, ok. Sì, sì, lei sì, qualcosa del genere. Ma il primo c'è, cioè, una parte dentro la villa, è proprio bastardo. Cioè, tu entri dentro una stanza, non c'è un cacchio, va via la luce, il tuono. Ti arrivano 200 mostri intorno, tu cominci a sparare da tutte le parti, poi ritorna la luce e non c'è nessuno. Ma questo forse riandava a ripescare un po' nella tradizione di Alone in the Dark, un po', una cosa del genere. Però vabbè, io mi dispiace perché non lo comprai, ma non so per quale ragione non lo giocai, o lo giocai proprio 10 minuti, non mi ricordo. Comunque vabbè, diciamo che è rimasto famoso soprattutto per il cambio del protagonista, perché da un signore baffuto diventò improvvisamente un figo giovane, sarà stato un trentenne. Diciamo che il signore baffuto si può da vedere, no? Colpa di Però era un personaggio, sì, un personaggio. Capito? Sono tutti uguali, sì. Però sì, è vero, adesso sono tutti uguali, è vero. Però vabbè, insomma, era Hercule Poirot, una cosa del genere. Sì, ma era poco action, sì. Forse perché quello doveva essere un po' più action. Infatti no, il problema è che lui si muoveva un po'. Cioè, la difficoltà di Alone in the Dark era il gioco, era giocarci, era quello, era orientarsi. Esatto. Quindi era un po' complicato. Vabbè, invece, guarda, io devo dire, il gioco che mi ha fatto più paura, tutto sommato, e che secondo me non è un gioco horror, però secondo me rientra nei giochi horror, è stato proprio Doom. Mm-hmm. Cioè, a me Doom. È il primo Doom. Sì, sì. Ci sta tutto. È proprio horror. È horror. Ha voglia. E lì apri voglia. La porta e ci sta dietro il caco demon. Che lì dici quanto sei strano. Sì, però lì è. Già dal nome dice. Già che sei caco demon. Poro Cristo. No, però dico, cioè, nel senso. Era lì, erano i suoni, l'angoscia, l'ambientazione. Cioè, secondo me, perché è entrato prepotentemente per la prima volta a questo livello il satanismo nel videogioco, perché lì era tutto un susseguirsi di immagini infernali, croci rovesciate, e te devo gente dire che impalata. Il fatto che era in 3D in soggettiva comunque amplificava poi il senso tra virgolette di immersione, perché poi c'era il primo Gabriel Knight, pure c'era meno male elementi abbastanza particolari, c'era sempre Fantasmagoria che addirittura era pseudo splatter, sì. Sebbene insomma molto alla casereccia. Però ricordiamoci, c'è la scena del bagno che io penso che tutti gli adolescenti dell'epoca, sebbene è brutto perché in realtà era una scena brutta, no? Però tutti ingrippati. Poi tra l'altro non so se, ma lei era un'attrice porno o qualcosa del genere, può essere, no? Forse mi sbaglio. No, vabbè, comunque, sai che l'attrice porno avrebbe potuto farlo comunque tranquillamente. No, in quei tempi l'attrice porno era quella che faceva Wing Commander 3. Bravo, grande. Lei stava giù alla cosa, la meccanica. La meccanica, stava bravo. Giù alla cloche, esatto. Quindi... No, vabbè, Doom comunque Silent Hill, perché io ribadisco, il primo Silent Hill c'aveva, i giochi giapponesi più o meno poi dopo incominciavano a ricalcare un po' tutti lo stesso stilema, no? I giapponesi hanno sto problema secondo me di fondo, che quando fanno una cosa bene iniziano un filone che non finisce mai, sì. E diventano praticamente ridondanti, ripetitivi, non evolvono. E questo è successo a tanti giochi horror alla Silent Hill, ma Silent Hill c'aveva una cosa in più di tutti quanti, che era l'atmosfera, perché quando a un certo punto cominciavi a sentire rumore metallico e tutto diventava sporco, diventava, quando entravi insomma nella sirena, quando entravi nella parte oscura, cioè questa trasformazione che era talmente palpabile, talmente fatta bene, che per me è stato, e forse è stato, quello è stato veramente un capolavoro proprio. E piacerebbe una volta invece anche su quello magari farne una bella retrospettiva fatta in una certa maniera, perché in realtà ci sarebbero una marea di cose da dire tra citazioni cinematografiche, sì, e via, infatti, dicendo. Però vabbè, sarebbe poi un'impresa titanica da quel punto di vista, però anche dal punto di vista del modo in cui trasmetteva il linguaggio, questa contaminazione veramente col cinema, che poi da aperto Alone in the Dark, ma da lì in poi ovviamente è stato un susseguirsi, perché poi evolvevano le tecniche, evolvevano i motori grafici, evolveva anche la fotografia, quindi è quello che è stato importante a un certo punto, perché sai, il primo Silent Hill, la grande tecnica con una PlayStation 1, ricordiamocela sta cosa, è stato proprio il fatto dell'uso della luce che era veramente fondali fuglione. Non pre-renderizzati, no, sì, infatti, esatto. E della nebbia, cioè secondo me loro sono stati geniali veramente a implementare la nebbia. Qua non ci basta la memoria, mettiamoci la nebbia. Ma guarda, che la nebbia, la nebbia la nebbia è Silent Hill. Noi che, allora, quando noi stiamo in macchina la sera e torniamo a casa e vediamo la nebbia, che dimo? Siamo a Silent Hill. Okay, Silent Hill, cioè sono passati 20 anni, cioè, nel senso, sì. E stiamo ancora con questa cosa. Io tante volte capita alla stazione la mattina, e quando c'è il silenzio, c'è sta nebbia così forte, non bel genere, cioè, è istantaneo proprio il meccanismo, insomma. Marpo, ma quelli che mi hanno terrorizzato più di tutti l'ho detti. Quello che penso sia importante, è banale dirlo, però è Resident Evil come dichiarazione di intenti dei giochi giapponesi, cioè si sono ispirati a qualcosa che veniva dall'Occidente, e quindi i giochi di Romero, Alone in the Dark, per poi fare qualcosa che un gioco a cui poi tutti i successivi si sono ispirati. A differenza di Silent Hill, però, fanno un horror meno di meno di ambientazione, meno di suggestione, più diretto. Più gore in un certo senso, meno thriller, bene o male. Però anche quei trucchetti dei cani, gli uccelli, i corvi, quei colpi di scena, le hanno fatti con quel gioco, questa entrata molto cinematografica. E anche le inquadrature fisse che c'erano rendevano tutto, la scomodità dei comandi, sono cose che poi sono rimaste in tutti i giochi successivi. Quando poi i giochi successivi intendono soltanto Resident Evil, ma anche gli horror in generale, che l'hanno seguito. Silent Hill si discostava perché, vabbè, Silent Hill, come stavo detto prima, era una cosa completamente opposta. Poi secondo me Resident Evil, scusa se ti interrompo, e ha trovato veramente quello che diceva anche Marco prima, l'equilibrio tra per rompere il mercato, no? Quindi ha popolarizzato il genere. È vero che non è stato il primo, perché poi si andiamo a vedere tantissimo di Resident Evil in Alone in the Dark, però nel frattempo era uscito Alone in the Dark 2, Alone in the Dark 3, ma non avevano reso questo genere così ad ampissimo raggio di pubblico, diciamo. Invece è arrivato la Capcom, ha trovato l'equilibrio perfetto per vendere la formula e appunto per poi far esplodere il genere e creare un mercato da, forse in un certo periodo, il mercato più redditizio in assoluto per quanto riguarda il mercato console. E poi se ci pensi come meccanica, il fatto che potevi portare, a un certo punto diventava problematica, era proprio un elemento del gioco il fatto di non poter avere con sé più oggetti di quanti servissero. E si torna ai problemi che c'erano sui giochi del Commodore 64, come pigiama rama, puoi prendere solo due oggetti, uno lo posi, l'altro lo prendi, poi torni indietro, ti esponi pericolo continuamente. E anche per fare una cosa più banale, cioè prendere un oggetto e riprenderlo, ed è un costante tensione semplice, sì, però infatti. Poi ci sono sempre quella faccenda di trova l'oggetto. Sei uno delle pochissime persone che conosco al mondo che mi ha citato pigiama. Quello è un feticcio, solo il disegno, l'uomo in pigiama con le ciabattine che gioca. Vabbè. Esatto, grande gioco. E perfetto, va bene. Allora, diciamo così, dato perché appunto l'avete anche parzialmente introdotto, In realtà notiamo spesso una sostanziale e grossa differenza tra quella che è la narrativa occidentale con quella che è la narrativa orientale, in particolare giapponese, ed è ovvio anche perché i giapponesi hanno un loro modo di raccontare le cose, una loro mitologia e di conseguenza anche molti aspetti culturali che influiscono fortemente nel modo in cui fanno le cose, chiaramente e inevitabilmente. C'è stato un momento in cui si considerava il gioco horror, il videogioco horror, diciamo, era diventato quasi una cosa predominante di, come produzione, una cosa predominante dei giapponesi. Che ne pensate voi di questa cosa? Se è veramente diventato così, oppure in realtà non è più un falso mito dovuto magari dal fanboismo del pubblico verso certi giochi piuttosto che verso altri? Iniziamo da Marco. I giapponesi ne hanno fatto tanti di giochi, a parte Silent Hill, la Sega di Osaga, insomma, a seconda di chi lo dice, della Capcom, sui Zombas e sulle Plagas. C'era Siren pure. Siren, c'è Project Zero, quindi Fatal Frame, sì. C'è sì. Demento. Underground, Parasitive. Sì, vabbè, horror, però insomma no, sì, come... era horror Parasitive, era horror, sì. Ma io ho giocato il 2, però no, il primo un era un po' più splatter, forse il primo era horror, si trasformavano, diventavano bestie, però non lo so, non mi ha messo terrore quello perché hai giocato il secondo, hai giocato il primo, può darsi. Comunque hanno una grossa tradizione, il secondo era interessante perché lei si fa da ceva, eccoci sempre che regalano grandi soddisfazioni i giapponesi, sempre poco, però quel poco te lo danno, insomma. Non è come a CD Projekt, esatto. A grandi, a mani basse, insomma, no. E quindi comunque sicuramente hanno una grossa tradizione, diciamo che poi l'Occidente ha dovuto un pochino seguire e forse non lo ha fatto neanche tanto, perché poi quindi di giochi occidentali gli Alone in the Dark ne stanno quelli, cioè gli ultimi, sì, ma non reggono il confronto comunque. Forse Dead Space, poi strano perché invece se pensi alla fine a livello cinematografico comunque l'Occidente c'ha una grandissima tradizione, pure l'Italia, anzi, se vai a vedere, e anche se ti devo dire che i film horror giapponesi sono veramente fighi, cioè nel senso le ritrasposizioni occidentali non sono belle come le versioni originali, sono più malate quelle giapponesi, sono malate, sono proprio disturbanti, hai detto proprio bene, sì. Cioè io ho visto un film The Call che è una stronzata, se ci pensi in effetti è una stronzata, però era terrificante, cioè era terribile, cioè era veramente The Ring, sì. Ma comunque sono d'accordo, disturbato. No, adesso non mi ricordo più cosa stavo dicendo. Allora, hai finito. Horror, ok. Gianluca. Guarda, io ti dico che sono, allora i giapponesi, come dicevamo adesso, sono capaci di introdurre nuovi concetti, come sono bravi a ricopiarseli 100.000 volte, sono anche bravi a inventarsi delle cose particolari. Avete citato Forbidden Siren, che secondo me è il gioco più spaventoso venuto fuori dal Giappone come atmosfera. E anche se poi a Marco non piace, ma neanche a me è piaciuto tanto la meccanica del ripetere le stesse cose, per sbloccare particolari. Sì, però la meccanica del dover orientare la tua mente fondamentalmente verso il nemico che si sta muovendo e tu magari ti riesci a vedere anche negli occhi del nemico, quella è il ripetere le stesse scene che dopo un po' ma come gioco sono d'accordo con te che non è uscito così bene. Però volevo anche dire un'altra cosa sul fatto che i giapponesi siano il centro dell'horror videoludico. Io non sono tanto d'accordo, sia perché in Europa fondamentalmente c'è un doppio movimento. L'America lasciamolo stare perché secondo me è in ritardo e l'è sempre stato su questo fronte. Anzi, ha pure rovinato alcuni generi tipo Resident Evil, che si è mosso un po' più verso il consumatore americano. Mo ci arriviamo poi a quello. Infatti. Sì, va bene. Però l'Europa soprattutto adesso c'ha questa corrente russa che è molto interessante anche su questo tipo di giochi come Metro che abbiamo nominato prima, ma poi noi abbiamo un background straordinario sui giochi di Lovecraft. Noi questo anche qualcosa c'è in Silent Hill di questo, il male che tu non puoi capire è tipico europeo, è stato poi metabolizzato secondo me in alcune forme più commerciali, più famose, ma se noi andiamo a vedere alcuni giochi tipo Shadow of the Comet, una vecchia avventura grafica, oppure lo stesso Alone in the Dark, non so se vi ricordate la scena di Alone in the Dark che secondo me è spettacolare, in cui c'era una sala da ballo, sì, in cui si metteva il giradischi e questi qua cominciavano a ballare. Allora, quella non è una scena di paura diretta, così, anche se poi ti possono far male se ti toccano. Però è questo male impossibile, no? Questa cosa impalpabile che non riesci a capire, che tante volte non riesci neanche a vedere. In fondo è indifferente. Che poi mi piace. Quelli continuano a ballare. Sì, sì, sì. Che poi c'era, sì, che poi c'era sul Prisoner of Ice, Shadow of the Comet, sì, c'erano tutti questi qua. No, ma tanti. Che era perché la, se non mi sbaglio, la Infogrames aveva preso gli diritti di Cthulhu e aveva cominciato a fare tutta questa serie di giochi che erano riprodotti, cioè nel senso a successo alterno, diciamo così, comunque riproducevano bene sta malattia, eh? Il buco di Cthulhu. Sì, sì, sì. Tra l'altro adesso tra l'altro non so se avete mai giocato, è un gioco nuovo in realtà, si chiama The Last Door, che è un gioco fatto con 3 pixel, praticamente tipo la risoluzione sarà 120x100, ma veramente pixel giganteschi sullo schermo, ed è un'avventura grafica basata sull'horror di Lovecraft, diciamo, e con una grafica quasi inesistente fa delle cose spettacolari, insomma. Un gioco che vi consiglio, si gioca in pochissimo tempo tra l'altro, ma di grandi, un esercizio di stile fantastico veramente. Beh, quindi questo, ecco, anche prima del 60, sì, questo è proprio Apple 2, questo, cioè come grafica, insomma. Ma forse pure prima, guarda, i colori ci sono, però poi i pixel sono giganteschi, eppure non sembra, non si direbbe, ma tu giocandoci percepisci un'atmosfera che in tanti altri giochi non hai, cioè per dire Resident Evil 5 non hai. Mi sa che ne avevi già parlato del suo gioco da qualche parte, perché è forse nella rubrica del canale, lo devo recensire comunque, perché l'ho finito, vorrei recensirlo. Comunque molto particolare, ve lo consiglio. Quindi vabbè, neanche tu comunque, cioè sostieni che non è vero che in realtà l'horror videoludico adesso sia giapponecentrico? No, non lo credo, e credo che secondo me con il mercato che si è aperto, quindi senza solo grandi publisher che possono pubblicare, ci siano tante realtà che possono dire la propria fuori dal Giappone. Diciamo che l'Europa, come dici tu, l'America fino a un certo punto, ma l'Europa sta inseguendo, però, perché è rimasta l'Europa un po' indietro. Ma è... non so, ti dico, per alcune cose io credo che non siamo mai stati indietro, come idea di horror, appunto, anche dal punto di vista del cinema noi abbiamo un passato importante. Come horror, cioè, i giapponesi possono anche mettersi a bruciare le banane, insomma. Sì, nell'ambito videoludico, insomma, stiamo correndo dietro. La fortuna nostra è che i giapponesi poi si mettono a fare sempre le stesse, si copiano da soli, e quindi come sì, loro hanno loro hanno una crisi creativa ormai terrificante. Ma anche crisi comunque, tecnica, diciamo. Perché... Sì, sì, sì, moltissimo. Poi ho visto il vostro video, vi è piaciuto particolarmente il gioco lì, quello lì. Deadly Premonition. Deadly Premonition, esatto. Lo sapevo. Grande, che è il mio feticcio. No. Non toccare. Ma è anche un gioco feticcio. No, allora torniamo a parlarne, viene pure Marco. Comunque, lo dobbiamo farne. Comunque, aspetta. Piccola parentesi, tifiamo Italia, perché adesso, a proposito di horror, esce Haunted House, quello della Taribu CS, che viene riproposto, c'è un reboot fatto dai Dream Painter, che sono... è un gruppo italiano, quello che ha fatto Anna. Ah, sì, sì, sì. Quindi speriamo, auguriamo di buona fortuna. Anna, insomma, boh, detto bene, c'aveva un sacco di problemi, oggettivamente, però dal punto di vista scenico della manifestazione degli eventi, sì, sì, roba del genere, è una bella stretta, insomma, tutto sommato. Ma non è un caso, secondo me, che abbiano affidato Haunted House, che suppongo sia un gioco su ambienti chiusi, quindi ristretti e quant'altro, a un team che ha fatto Anna, che insomma, su alcune cose ha fatto una bella figura. Perfetto. E Marpo? Allora, invece su questa cosa sono parzialmente d'accordo, perché l'Occidente, e intendiamo con l'Occidente adesso la produzione americana, era sempre loro, diciamo, l'ha annacquato in altri generi. Aspetta che io sento dei rumori inquietanti, sì, sì, sta succedendo non lo so qualcosa cosa di stai facendo, non sono io. Ok. Ah, c'è qualcuno arrivato... che stava picchiando il microfono, l'aprendo porta. Secondo me è arrivato Piramide Testa e sta uccidendo il buon Santilio. Vabbè. Santilio, sei vivo ancora, sì. Ecco. No, ho avuto un problema qui col gatto. Ah, ok. Ah, pure il gatto. Attenzione, il gatto a noi, quando arriva il gatto, se comincia a fissare il muro, è brutto secchio. Io una volta, proprio l'altro giorno, Michele si è messa paura perché ha cominciato, il gatto cominciava a fissare un punto della legge. Dice, che fai? Che fai? Non si distraeva il gatto, non neanche se gli tiravi la ciabatta. Guarda, ha detto, nonno, è venuto nonno. Ammazza. Vabbè, dai, comunque. L'Occidente appunto ha annacquato il genere horror utilizzando in altri giochi, in altri generi. Le scene dei vari action o dei vari giochi di successo, come anche nei film, hanno dei momenti splatter messi lì. Adesso faccio un esempio, non è videoludico, Robocop, dove ci sono film di fantascienza dove ci sono momenti splatter così mai visti prima. Quindi questa mentalità occidentale, gli anni 80 non torneranno più, sono finiti. Meglio male. No, che dai, male. Per certe cose no, comunque vabbè. E anche perché Zinia se ne vedono di meno nei giochi. No, questo è mica tanto, ma non te crede. Però vabbè, cioè nel senso, in realtà c'era maggiore genuinità cinematografico. Gli anni 80 purtroppo sono più, sulla qualità che sulla quantità. No, vabbè, perché c'era un trash molto esplicito, no? Questo è, e quindi per gli amanti del genere, indiscutibilmente, cioè il vedere il Robocop originale e vedere quello rebuttato adesso, chiaramente non puoi dire meno male che sono finiti gli anni 80, perché diciamo in generale, sì, lo so, capisco, no, ma poi lo puoi anche dire, non è che era per chiarire. Ti insultiamo, ma non è che non ti silenzio, no, ti silenzio. Sono scomodo. E chissà che hai detto l'altra volta, non lo so, non lo saprai mai. Non deve saperlo. E niente, invece chi va proprio al nocciolo, sono adesso appunto, ne parleremo più avanti, casomai, le produzioni indie in ambito occidentale, in occidentale, mentre le grandi produzioni appunto hanno annacquato la cosa, forse non so, non renderà l'horror di per sé queste grandi cifre, oppure hanno paura in fondo, non lo so. L'horror fa paura. L'horror fa paura. È una cosa. Torna tutto. Vedi, anche se non voglio, dico cose di un certo livello. No, ma che poi questo poi abbiamo silenzio. No, che poi la domanda sì, certo, chiaramente, ma sì, sì. In realtà, ma oggettivamente, no, al di là di tutto, un videogioco horror oggi, ma vi fa paura? Sì. Cioè, provate la stessa paura che provavate. Certo. Io ho giocato a Outlast, francamente. E ti faceva paura. Certo. Però Outlast già è diverso, perché anche lì entra l'immedesimazione della terza persona e della prima persona. Ho giocato a Dead Space, eppure quello. Ti faceva paura. Pure il 2. Dead Space io non ci sono riuscito a giocare. Certo. Mi sentiva via l'ansia. L'ansia e non ho potuto giocare. Mi succede su tantissimi giochi anche a me. Quindi, quindi in realtà siamo in grado, cioè nel senso, sono in grado di generarci questo tipo di sensazione. Perché per me sì, dipende ovviamente poi da. Che a me le cose che veramente mi fanno paura adesso come adesso, boh. Però penso se fanno un bel gioco. È vero che non ho giocato Outlast, Che fanno un bel gioco che a un certo punto ti arrivano nelle cartelle esattoriali. Quello mi fa paura. E c'è il conto rosso. Cioè lì. Quello metti lì e come fai? Che fai? Lì secondo me. C'è horror e horror. True story, tra l'altro. Basato su una storia vera, possiamo scriverci. No, perché in realtà poi mi è venuta anche un'altra domanda fuori scaletta, ma me la sono dimenticata, quindi lasciamo perdere. Però quello che dico. Cioè... Poi se si silenzia da senso. Ma sì, infatti. Edulcorazione cioè, nel senso, se questi giochi, ma poi facciamo anche un parallelismo con il cinema, perché va bene anche. Ma questi giochi questi giochi e questi film sono stati edulcorati, o siamo noi che siamo diventati molto meno sensibili, diciamo, all'horror di per sé? Perché io vedo che, cioè, nel senso, vabbè, adesso Marco ha citato Outlast e va bene, però quante cose dici veramente, ma no, ha tenuto un po', ma pure a vedere un film, cioè nel senso, io l'ultimo film che ho visto che mi ha fatto paura quello lì che abbiamo visto, The Conjuring, perché però? Perché in realtà, nonostante che era una cazzata, usava delle tecniche basiche dell'origine dell'horror psicologico che funzionano ancora oggi, cioè quelle sono talmente scolastiche come tecniche. Comunque un film o un gioco horror, cioè non è facile, comunque sì. Vai. Devi sempre basarti su le solite cose, non è che ti puoi inventare granché, quindi devi sempre andare a fare l'effetto horror, l'effetto, il colpo, la cosa improvvisa, l'inquadratura che cambia, il mostro che ti compare dietro alle spalle, ci deve essere sempre quella cosa che ti fa scattare, e poi ci devi mettere comunque un impianto che regge tutto quanto, perché se no, se vai avanti sempre con gente che ti esce fuori dai tombini da un po' di mazza che parte. Però io posso dire una cosa, io non so se vi ricordate, c'era un film, e non parlo di Poltergeist che è un classico, adesso ti parlo di Fantasma, no. Ti parlo di Entity. Ah, Entity, sì. Ma per lì perché c'è stata la gnocca, c'è a parte c'era la scena di sesso col fantasma che era fantastica, cioè veramente penso che un regista, veramente non so chi è il regista, non me lo ricordo, ma se lo incontro gli stringo la mano, perché cioè sei disturbato dentro, cioè c'hai qualche cosa che non va, ma il bello è che ti pure, vabbè, la lasciamo perdere. Non l'avevano fatta anche in Ghost, una cosa del genere? Sì, vabbè, ma Ghost era dopo, però sì, sto scherzando. Comunque Entity, e come tanti classici, diciamo, a un certo punto la cosa bella non era quello che vedevi, ma era quello che sentivi, che secondo me è la cosa che ti fa più paura, perché quando tante volte sei suggestionato dalle cose, o quando eri piccolo e stavi al buio e dovevi dormire, non ti faceva paura quello che vedevi, ti faceva paura quello che sentivi, gli scricchioli, le cose, i passi o roba del genere, o quello che ti immaginavi, no? E com'è quel gioco che abbiamo fatto pure su Dietrologia Videoludica, del bambino che sa che vive Among the Sleep, cioè geniale, perché secondo me la distorsione di quello che la mente riesce a riprodurre quando è suggestionata dalla paura. Mm-hmm. Lì era chiaramente in un'altra chiave, però ricordatevi voi gli incubi che facevate da ragazzini, no? Nel senso, quando eravate spaventati o quando eravate particolarmente angosciati o suggestionati da qualche cosa, insomma, quello secondo me funzionava. Vabbè, comunque, vabbè, insomma, questi giochi ci fanno paura o no? Sì. Gianluca? Sì, moltissimo. Io reggo pochissimo, tra l'altro. Tu dici proprio io in generale, se posso. Sì, sì, sì. Insomma. Marco? E dipende dal tipo di horror che ti vuole, che tipo di effetto ti vuole scatenare. Cioè, l'horror dei Space, pieno di morti efferatissime, di Space 2, ma non mi hanno impressionato più di tanto, perché comunque è bu, sostanzialmente te fanno bu, fatte paura e finisce lì. E invece quello che dicevi tu, insomma, dipende, giocaci con un livello difficile, però vedi già a livello difficile, cioè quello è gameplay, non è più il buco di Cthulhu, però non è più lì la questione dell'horror, la questione è che è più difficile ammazzare i nemici, non è tanto questione di horror, quello, però quindi quando escono è frustrazione. Allora c'è pure Dark Souls che è horror, andiamo così. No, però secondo me, capisco secondo me quello che vuol dire Marco, cioè il fatto di sapere di poter morire facilmente ti aumenta la tensione. A volte ci sono degli horror dove tu, vabbè, comunque sai che tanto la passi la sezione perché sei forte e quant'altro. Anche per dire, un gioco come Bioshock, sì, che sì, non sì, è horror, sì, ma sì, ha dei momenti di tensione, se lo giochi a livello di difficoltà alto, quando arriva il Big Daddy, cioè tu hai paura che arrivi il Big Daddy. Però già c'è quella tensione un po' angosciosa. Questo gioco d'azione, più o meno, l'horror teoria dovrebbe spaventare, essere inquietante. A Silent Hill dovrebbe usare altri mezzi, come usare esempio Silent Hill. Sì, questo sì, sicuramente. Bioshock è un esempio ficcante, perché comunque, anche se non è un horror, lo è, usa gli stessi meccanismi funzionano, perché non è tanto il fatto che ti facciano semplicemente boo, perché si basa tutto sulla anche atmosfera della tetra, della simpatica città di Rapture, fuori, sì. E quindi niente, questi horror mi fanno paura. Quindi ambientazione, la città sott'acqua, Genova, ma sì, però sì, questa cosa del livello di difficoltà mi ha fatto venire in mente una cosa, ma in realtà l'essere concentrati sul gameplay amplifica o rovina l'esperienza? Perché in alcuni casi non è così scontata, dipende, la cosa. Dipende, perché se c'è troppo cioè è anche un po' difficile spiegarlo, però se a parole tue, sì, sempre con comprando vocali, se c'è comunque un gameplay molto invasivo, cioè se ti devi mettere a fare troppe cose che ti distraggono da quello che è poi l'atmosfera, ovviamente poi si spacca tutto, si rompe il gioco. Per esempio, Resident Evil che aveva i classici come si chiama backtracking, mm-hmm. di andare avanti e indietro, sì. a fare le stesse diciamo risolvere gli enigmi, non è che fa paura a tutto il gioco, fa paura in alcuni punti del gioco, perché comunque il fatto di dover risolvere gli enigmi ti comunque fa concentrare su un'altra cosa, quindi ti mette il focus proprio dell'attenzione su risolvere l'enigma, trovare la chiave, mettere la pietra giusta nel buco giusto, quindi ti spezza un po' l'atmosfera. Silent Hill c'ha pure la stessa cosa, ma in realtà lì è proprio l'atmosfera vince proprio un po' su tutto quanto, quindi ti prende completamente. Outlast non c'ha enigmi, per dire, devi soltanto trovare le cose di ventilazione, il condotto di ventilazione dove infilate prima che ti arriva qualcuno e ti fa il buco di Cthulhu, quindi comunque non c'è, capisci, non c'è una distrazione. Allora, quindi riesci a fare un pensiero senza dover dire una cazzata? No. Non ci riesci, non è possibile. Gioca, però riesci a dire cazzate senza però senza di cose serie. Quindi comunque secondo me dipende anche da quanto è poi macchinoso il gioco. Se diventa troppo macchinoso l'atmosfera si spezza, se deve essere comunque un certo equilibrio tra le meccaniche di gioco, l'atmosfera e i momenti horror. Vabbè, io non mi ricordo più se abbiamo chiesto a Marpo se c'ha ancora paura, però insomma, sì me l'hai chiesto, te l'ho chiesto, vabbè, allora andiamo avanti. Io tu ricorda sempre una cosa, Marpo, non contraddirlo mai, no. Sennò sparisco, sennò poi non ci sei. Questo è horror, è un meccanismo horror perfetto. Esatto. No, oggi c'era un commento tra l'altro sul forum di All Games Italia, proprio infatti dice io però sarebbe bene, vi do questo suggerimento, poi insomma Pizzi dovrebbe ascoltare anche gli altri. Ah no, vabbè, ho capito, tanto lui fa come vabbè, comunque allora veniamo a noi. E questo l'aveva accennato Gianluca prima, in realtà, perché c'è questa tendenza, diciamo, a occidentalizzare, anche per esigenze chiaramente di mercato, probabilmente alcuni giochi che nella loro versione classica erano appunto tra virgolette dei classici. Andiamo nello specifico, perché la domanda è molto generica, ma in realtà secondo me facciamo un esempio proprio specifico, secondo me è meglio. La serie Resident Evil in particolare chiaramente è diventata un action adventure classico, dove praticamente ha perso secondo molti i suoi elementi horror e i suoi elementi naturali che in realtà ne facevano il successo della serie, quindi un po' il gioco è stato tra virgolette edulcorato, un po' è stato più assimilato, diciamo, appunto a degli action adventure, tra l'altro anche con grossi problemi tecnici, perché nel volersi avvicinare a giochi che potevano essere Gears of War ad esempio, solo che in salsa horror, chiaramente poi mancava proprio anche la base tecnica. Allora, intanto se è vera questa cosa, prima di tutto, cioè nel senso, è vero che è solo il caso di Resident Evil oppure ci sono stati diversi casi o diverse situazioni? Io posso dove insomma, devi pure finire la frase per caso? No, ma fai tanto, ho sempre ragione io, poi di anche una parolaccia ogni tanto. Dopo. Okay. E posso dirti una cosa, che secondo me il video, per quanto mi riguarda, poi magari non so, Marpo e Gianluca magari potrebbero anche non essere d'accordo, però per quanto che mi riguarda, cazzi, no, che no. Sti cazzi, ho ragione io. Esatto. E, il videogioco horror rock. Anche rock horror fallisce, dove il personaggio più che una preda diventa un predatore. Resident Evil, gli mm-hmm. ultimi, dov'è che sei preda? Sei armato fino ai denti, c'hai i compagni, ti sparano tutte le parti, cioè non... Però ricordati che se cammini non puoi sparare. Beh, è anche normale, cioè come fai a camminare a sparare? Cioè, come fai? Io non ci riuscirei, mi dovrei fermare, prendere la mira e sparare. Beh, è normale, è normalissimo. Che ti posso dire? Quindi lì l'atmosfera viene horror finisce, perché lì ti senti più un cacciatore. Devil Within, per esempio, che poi ne parleremo, perché per me cioè non mi mette la paura, l'ansia forse un pochino sì, ma sempre per il fatto di dover poi proseguire nel gioco, quindi senza sapere mai cosa succede, perché lì fai le stealth kill, cioè lì vai dietro al mostro e gli dai una coltellata in testa, cioè tu al mostro dovrebbe essere il contrario, esatto, cioè sei tu quello quasi che conduce il gioco e te lo fa sentire sta cosa, quindi non ti senti un personaggio indifeso che va lì, trova una pistola, oh santo cielo come funziona sta pistola, forse per sparare devo stare fermo quindi capito, che ne so, il protagonista di Silent Hill è un padre di famiglia che si trova a prendere a bastonate degli gnomi maledetti. Demento, cioè la disgraziata che l'unica cosa che sa fare è correre, incespicarsi e nascondersi sotto i letti, insomma, perché non sa fare nient'altro. Già per esempio in Resident Evil tu sei comunque un poliziotto, già là di meno infatti si sente l'atmosfera, perché lì pure comunque sei uno che è un soldato, diciamo, un poliziotto addestrato, quindi tu sai quello che puoi avere la meglio anche sugli zombie. Lì è il numero magari di nemici, la difficoltà di abbatterli, cioè, che ti dà più angoscia. Fra l'altro, non so se sei d'accordo, un po' di tensione, di paura, Resident Evil la recupera col 3, che non è molto amato, però secondo me il fatto di aver inserito Nemesis, che è un personaggio più forte di te, a parte che l'ammazzi, però essendo un personaggio nettamente pericoloso, secondo me riprende un pochettino il bandolo della matassa, diciamo. Sì, un pochino sì, ma quello comunque mi è piaciuto. Quello dove sì, sì, anche a me. Potevi fare i proiettili, mi sembra, col macinino lì. Una cosa non ricordo bene, però sì, mi sembra di sì. No, non era male. Lì perché c'avevi comunque il mostro che tornava, insomma, quindi... Sì. Se stavi troppo in una schermata arrivava, insomma. Ah, questa cosa non me la ricordavo. Forse perché mi cagavo sotto e uscivo subito. Ok. Ciao Luca. Sì, io come ti dicevo prima penso che il mercato si sia un po' troppo spostato verso il gusto del videogiocatore medio, che per questione di numeri è soprattutto videogiocatore americano, quindi ci siamo spostati verso meccaniche molto action e poco horror, okay. Poco meno thriller, insomma. Il giocatore americano gli piace fare bang bang, no, diciamo che non, allora, non io... ho paura di niente bro, io ti sparo in faccia, no, però cose. Io voglio dire, questa è una cosa che abbiamo notato con Marco e poi scusa Gianluca, poi ti rilascio la parola, ma figurati, che in realtà noi abbiamo capito che questa è proprio una politica anche editoriale, che si realizzano prodotti dove il livello di tensione in generale, non solo di sfida nel gameplay, ma di tensione in generale, deve essere bassa. Per esempio, prendiamo un serial come Revolution, quello di J.J. Abrams, che è stato troncato alla seconda stagione. Ora, vabbè, non è capolavoro, quello che vi pare. Però c'erano degli elementi a livello di intreccio che potevano generare tensione. Okay. Almeno ogni puntata. Però che succedeva? Che alla fine, dopo una, due, tre, quattro puntate, sapevi che lo schema era che tanto comunque andava a finire che, cioè, si risolveva da solo. A caso, da solo si risolvevano i problemi. Quindi non ce l'ha più questa tensione che per esempio c'avevi in Lost, per dirti, no? Sì. O che c'hai nel Trono di Spade, dove non sai mai dove c'è il Trono dello Spade, e lì veramente non sai quello che può succedere. Infatti è un prodotto di nicchia, anche se di successo per certi versi. E quindi il problema sta proprio in questo, cioè nel senso che noi vediamo una costante realizzazione dei prodotti che tendono ad essere edulcorati non soltanto dal punto di vista della volgarità o dello splatter e quindi della violenza, ma proprio del livello di tensione, e questo è un po' il problema secondo me, ma anche perché è stato interpretato negli anni della PlayStation 2 e della PlayStation 3, insomma in quelle generazioni, nelle scorse due generazioni, che si è creduto che il gioco horror dovesse necessariamente avere anche un reparto tecnico molto importante che comporta grosse spese economiche, quindi tu hai bisogno di vendere. Forse avrebbero fatto bene magari a fermarsi al quarto per quanto riguarda Resident Evil, invece l'unico horror che ha fatto la Capcom è stato ancora Resident Evil, anche dopo. Quindi tu, per allargare la possibile base di acquirenti del tuo gioco, cerchi di fare qualcosa che possa accontentare più persone. In realtà Non credo che questo abbia pagato moltissimo, perché poi tu vai a vedere i dati di vendita, ogni gioco, ogni episodio nuovo vendeva meno, in realtà un po' meno, un po' come è successo con Final Fantasy, perché non c'è carica innovativa, si sono adagiati sul modello che poi è stato comune per tantissimi altri giochi. Quindi chiaramente, come dicevamo, se qualche cosa diventa prevedibile, in un certo senso anche banale, la paura si riduce di conseguenza. Dei nemici che muoiono, poi ritornano, perché poi dopo si affezionano gli sceneggiatori. Che mi fai venire un coso, quello biondo che niente ritorna, Wesker, si chiama Wesker, che niente ritorna, ma quante volte lo fa morire, basta, fallo morire una volta. No, poi la cosa che mi fa, a me veramente, questa è tipica delle grandi saghe giapponesi, la cosa che veramente mi fa veramente spaccare è il fatto su Metal Gear, su Resident Evil, sti personaggi che te li porti per 10 puntate, 11 puntate, non muore mai nessuno, mai nessuno. Cioè, quelli più sfigati, quelli che magari, ah, questo personaggio mi piace, risuscitiamo, no, così. Nel senso, ma già gli sparano, gli crollano i palazzi addosso, e beh, è bella sta cosa, perché c'hanno una fisicità che... Poi c'è Resident Evil, quello lì, lo spin-off, Revelation, il primo, Revelation, che inspiegabilmente c'è un seguito. Comunque, in ogni caso, perché inspiegabilmente? È piaciuto, eh? Piaciuto, certo, non muore nessuno. C'è state esplosioni, morte, ammazzare gente che cade in mezzo alle fiamme da 20 metri, poi si sgrulla. Oh, potevo quasi farmi male. È il motivo per cui il cinema sta lasciando lo spazio alle serie televisive, perché la serialità genera empatia, l'empatia genera sicurezza. Mm. E così funziona. Ammutolito. Poi io, in realtà, noi non abbiamo capito che cosa hai detto, però poi dopo cercheremo su Google e ne vedremo. Riascolteremo la registrazione. Vabbè, Marco. No, hai detto tutto tu, perché in effetti il discorso era su quello che volevo dire, che secondo me questo concetto di serialità, che a lungo andare per forza annacqua e per forza di cose, non si può sempre essere a 100 per fare una cosa che si ripete. Anche perché poi ripetendosi perde anche la capacità di spaventare, perché l'alternativa sarebbe sempre esagerare, visto che non si può esagerare, per aumentare l'effetto bisogna tenere un livello così, quindi piano piano si annacqua e si cerca di andare incontro. Però anche l'idea che bisognerebbe tornare indietro e fare i comandi più scomodi perché così è più horror, è un irrealistica. Quando mai si è visto un retro, certo, come si dice, un'involuzione diciamo, di un videogioco o qualunque altra cosa, perché era meglio quando si stava peggio. Io sono contrarissimo a questo tipo di idea in generale, no? Cioè, è soltanto una questione nostalgica. Ma perché tu non, prendi i treni che prima arrivavano in orario? Sì. Significa che dovrò rimettere a posto la mia trackball, insomma. No, ma è un po' come si dice, no, non fanno più giochi di una volta. In realtà, se tu vai a vedere, la qualità oggi c'è su tante cose, è che cambia il mercato e magari cambia l'offerta, ma non è che sia... Cambia anche la tecnologia, cambiano le tecnologie. Il media si è contaminato, quindi voglio dire, sono tante, una serie di infinite cose. Va bene, poi allora dicevamo che questa tendenza, diciamo, ad occidentalizzare, in realtà i fan un po' si sono incazzati. E vediamo poi se sono stati accontentati, ma ci arriviamo dopo, perché poi ci arriviamo in un punto specifico. Invece, e qui mi fa piacere che ci sia Gianluca, perché forse faranno, no, anche Marco, però mi fa piacere che ci siano voi due, perché probabilmente siete un po' più ferrati da questo punto di vista, andando a esplorare magari quello che è un settore di mercato del videogioco che io e Marco, diciamo, caghiamo praticamente zero. Ma per ovvie ragioni, Slenderman, non è solo per la questione di dette, perché poi cioè, voi dici, stanno ci stanno anche, che ne so, le visual 9, no, graphic 9, come si chiamano i giapponesi? sì, visual 9, qualche volta so le dette, insomma, vabbè. Comunque, al di là di questo, allora il mercato indie invece in che maniera? Partiamo proprio da Gianluca stavolta, così almeno facciamo un giro diverso. Che ci propone il mondo indie? Poi, ritornando anche a quello che avete detto prima, l'horror è solo una questione di tecnica, cioè nel senso ci vuole veramente poi grossi motori grafici, grosso sound design, oppure è anche una questione di intuizione, no? Di regia, di appunto di intuizioni psicologiche. Gianluca? Io ti dico che secondo me è un, appunto, una questione di intuizioni psicologiche sicuramente. Non ti so dire precisamente quale sia la formula perfetta per l'horror, però riferendoci a qualche gioco indie uscito recentemente, tipo appunto The Last Door, che ti dicevo, quello dei pixelloni, lì cosa c'è? La grafica possiamo quasi escluderla, non c'è nulla, non c'è un doppiaggio nel gioco, ci sono soltanto pochi enigmi, ma è come, in un certo senso, ti riporta quasi a leggere un libro di Lovecraft, perché tu non hai il dettaglio dei volti, degli scenari che ti si dipingono di fronte, tu hai un'idea vaga, è come se tu mettessi all'interno di quei pixel il dettaglio, quindi è una cosa molto molto suggestiva. Quello che facevi 20 anni fa poi. Esatto, esatto, noi non sapevamo qual era, per dire, la faccia di Gabriel Knight nel 1993. Esatto. Quindi l'abbiamo vista digitalizzata qualche anno più tardi, no? Però insomma, noi comunque ce l'avevamo nella nostra mente la faccia di Gabriel Knight. E si è recuperato si può recuperare quello con le avventure grafiche di oggi in pixel art. Tra l'altro ne esiste un'altra indie bellissima, bellissima, che si chiama Five Days a Stranger, che è gratuita, tra l'altro, che ha una grafica orribile, ma ha una storia pensata bene, insomma, tensione, elementi semplici però fatti molto bene. E poi Marco ha nominato prima Outlast, che è comunque di natura indie, per quanto magari di quelli più curati, se così vogliamo, che ha portato elementi nuovi effettivamente nel videogioco, ha dato uno scossone, poi se ne sono visti altri come poi Outlast, dopo, poi che... dopo è, cioè come andavamo tutti in giro con i cellulari a fare dentro le cose, come gli Hunting Game, no? Che poi alla fine è partito il primo, è partito il filone, poi alla fine sono partiti a rotta di collo, no? Perché in realtà, esatto, esatto. E poi un altro gioco che secondo me vale la pena citare è Lone Survivor, che è praticamente una sorta di Silent Hill in due dimensioni con inquadratura laterale, cioè si vede questo soldato, questa persona insomma, che si trova in questa città abbandonata dove tutto dove ci sono mostri, insomma tutto sembra andato alla marora, e comunque c'è questa necessità di sopravvivere. È un gioco che crea atmosfera pur con i pixel grandi, con poche risorse e così via, quindi c'è tanto tanto di, ci sono tanti impulsi nell'indie, ecco, si vedono idee nuove. Abbiamo visto anche Anna, che, per dire, ha avuto un'idea diversa, ambientare tutto in uno spazio piccolo ma comunque molto curato. Io sono molto curioso di vedere quello che accadrà con gli indie di nuova generazione, perché adesso ci sono stati tanti piccoli studi che hanno magari ottenuto buoni risultati sul mercato, che suppongo abbiano incassato qualche cosa e che quindi abbiano un po' di soldi da investire sul loro prossimo progetto. Quindi vedere se si riesce a creare uno spazio tra l'indie e il mainstream, uno spazio costituito da ex indie che riescono a professionalizzarsi un pochettino di più senza sfociare nelle leggi più ferree del mercato AAA, diciamo. Secondo me lì si possono trovare cose interessanti, soprattutto per il campo horror, perché l'horror purtroppo, per farlo in una certa maniera, a meno di non avere idee geniali come quelle di cui abbiamo parlato, di Last Door oppure Lone Survivor, richiede degli investimenti più consistenti. Sai che su Lone Survivor è tipo fatto con strumenti tipo RPG Maker, Adventure Maker, questi qua, perché... No, penso che non l'abbiano fatto con quello. No. Però, il look è quello. Che poi non è squalificante la cosa. Abbiamo visto, insomma, anche che no, fatte. In realtà, secondo me, la grande genialità del mondo indie sta nel fatto di proporre l'idea. Quando anche l'idea viene meno, a quel punto non ha proprio senso che fai questo, che quello che stai facendo, insomma, perché... Sì, io vi ho linkato nel frattempo anche Five Days a Stranger, se dopo magari vi date un'occhiata, che è un'altra avventura grafica che parla praticamente di un ladro che si infila in una villa per rubare qualcosa di prezioso, e insieme ad un altro gruppo di persone che incontrerà più avanti rimane bloccato in questa villa, non si apre nessuna porta, nessuna finestra, niente, bloccati nella villa, e da lì poi c'è una storia come magari non ne avevamo viste prima, insomma, cioè una storia che ha qualcosa da dire, delle buone idee con l'atmosfera giusta, giochi fatti con pochissimo, per dire, questo, no? È proprio il Zack McCracken, proprio Sì, Zack McCracken, però secondo me ti piacerebbe. No, no, no, appunto, proprio perché, cioè, mi piacerebbe, no? Sì, certo, figuriamoci. Dai, insomma, che per me è Marpo. E, secondo me è l'unica... Qual era la domanda? Sì, qual era il programma, la trasmissione? No, secondo me la nuova... No, frontiera no, però la possibilità di sviluppo dell'horror è proprio negli indie, o come mi diceva il mio esimio collega poc'anzi, quegli indie che sono una via di mezzo tra, non sono proprio probabilmente più indie, ma non sono neanche delle major. Mi vengono in mente giochi come Slender oppure Amnesia. Sì. Che mi ricordo sì, un sì, po' facendo un paragone cinematografico, quell'horror italiano degli anni 70 che era artigianato e che ancora fa paura, che ne so, Mario Bava o Fulci, Antonio Margheriti, se non dire Dario Argento, Fulci, certo, che certo. Fanno sì, vabbè, Dario Argento in realtà è stato il, come posso dire, la punta dell'iceberg. Sì, diciamo che lui rappresenterebbe un po' tutti i problemi che c'è, cioè nel senso che questo, o quando l'horror, diciamo, diventa fine a se stesso e in cerca di effettaccio. Però a parte quello, gli indie secondo me hanno questa possibilità, lavorando in modo certosino, non soltanto sullo spavento, ma anche su tutta l'atmosfera e su storie nuove, che poi è importante. Quando poi c'è anche un livello autoriale e ci cominciano a mettere le proprie ossessioni, delle cose particolari, sì, allora è la via all'horror nuova che può andare verso il futuro, secondo me. Marco? Fra l'altro adesso non ricordo, scusatemi, dico soltanto un'ultima cosa. Ah, ecco, mi è venuto in mente il nome del gioco. È uscito un Marco diceva delle proprie ossessioni dei vari sviluppatori. È uscito un gioco che si chiama Neverending Nightmares, che tra l'altro linka da dove sei. Sì. Te lo cerco. Vabbè, no, prima finisci di dire poi. Sì, è che è un titolo realizzato da un autore che soffre ancora probabilmente di incubi spaventosi. E allora lui, proprio per quasi per curarsi, insomma, per affrontare queste sue paure, ha creato questo videogioco che ricorda tutto quello che lui vede ed ha avuto un grande successo. È inquietante, ha uno stile grafico tutto in bianco e nero con solo il rosso del sangue, molto bello, molto consigliato. Un gioco diverso dal solito. Bene, questo mi fa anche piacere. Tra l'altro colgo l'occasione, prima di passare la parola a Marco, per dirvi, adesso non vi possiamo dire niente, ma non so, forse se nella prossima puntata, probabilmente già nella prossima puntata, faremo uno speciale su un videogioco prodotto da un team di sviluppo italiano, quindi dove intervisteremo, insomma, avremo nell'osservatorio loro come ospiti e parleremo poi del loro gioco. È un progetto interessante, non male, mi fa piacere, dato che insomma abbiamo detto anche prima che in realtà poi alla fine insomma siamo rimasti molto indietro. Il fatto che adesso esista questa nuova corrente indie è una grande opportunità invece per rimettersi in una carreggiata. Forse un'opportunità grossa come non ce l'abbiamo mai avuta, cioè, questo è un momento insomma storico anche abbastanza interessante. Allora Marco, vai tu. Da cogliere, sì, da esatto. Cogliere. Beh, allora io sulla parte indie ho poco da dire perché l'ho frequentata poco e spesso male. Tipo, ricordiamo il grosso gioco dello Slenderman che abbiamo visto insieme, che è veramente... Come si chiamava quello? Haunted Memories. Haunted Memories. Sì. Il primo capitolo che è veramente qualcosa di... Sì, vabbè, alcuni anche tecnicamente inaccettati, cioè, mo al di là, vabbè. No, ma c'è tanta spazzatura. Accetto il fatto che è indie, però per questo mi devi dare la merda, insomma, no? Nel senso... Comunque, vai. Comunque, stiamo vedendo Neverending Nightmare, veramente figo. Sì, questo è fatto tutto come se fosse disegnato a matita, tipo. Tipo, sì, sì. Esatto. Poi è bella la cosa dell'ombra, invece. L'ombra è fatta sempre con tratteggiatura a matita, tipo. Però vedi che ci segue... mi sa che me lo gioco, sto gioco. Sì, sì, sì. Poi appunto, se ti interessa la follia, la percezione. Io sono amico, da Marco. Che... Insomma, esatto, perfetto. Io sono amico di me stesso, perché immagino. È il vostro, esatto, il vostro. Esatto. Va bene. Allora, quindi, ma no, finisci. Scusa. Dicevo che di indie non ho molto da dire, perché in effetti. Non... Beh, però qualcosa pensa che te lo sei sparato. Ma a parte, ecco, cosa? Il nostro amico Outlast, no? Quello lì che ti ho appena detto su Slender, ma basta. Pochissima, veramente conoscenza di questa però cosa. Dovremmo seguirla sta cosa. Beh, però hai giocato pure a Deadly Premonition, mo diciamoci la verità, Deadly Premonition, boh, noi l'abbiamo perculato una cifra il gioco, però il gioco non è forse horror, però è interessante, rientra in quei giochi stile horror giapponese. Non è horror, però, però è intrigante, è un gioco veramente molto intrigante. Cioè, è peccato, zombie, è uscito, insomma, ma non si sa che cosa succede. Vabbè, però ci stanno, cioè, è uscito due generazioni dopo. Sarebbe potuto diventare un sì, grosso sì, vabbè, quello è un problema dei sueri, che vabbè, non mi fa entrare perché un giorno ne parleremo di questa cosa, faremo una puntata su questa cosa che ucciderò gente, ma in generale, perché cioè, per carità, no, per come la vedo io, che ho anche un po' studiato cinema per certi versi, roba del genere, non è mette uno vestito da coniglio e un altro con la gonna verde che vuol dire che c'ha idee geniali, che sei un grande autore, eh? Cioè, se sa, che estro, che fantasia, cioè dire, coniglio, cioè, è coniglio, però devi... non so, però sai, David Lynch o dei Burton o roba del genere ne nascono pochi al mondo, e nel mondo dei videogiochi oggettivamente ancora non ci sono, anche se pensano di esserlo. Però insomma, voglio dire, non è quello che fa intellettualismo, diciamo così, insomma. Però vabbè, questo è un altro discorso. Ciò non toglie però il gioco aveva comunque degli elementi interessanti, e anche quello viene, insomma, diciamo tra virgolette, dal mondo indie, perché non c'era magari un publisher dietro, non lo so come definirlo, guarda, un po' scappato di casa, non c'era nessuno, un gioco sono scappato di casa, ma pure male, perché Barbone ci ha messo 20 anni a fare questo gioco, che infatti è uscito 20 anni in ritardo, perché è preciso, lui prima, se il suo prodotto non è perfetto, esatto, non esce. Poi vagli a dire che manca l'effetto di trasparenza sull'acqua. No, questa qua l'aggiungiamo nella edition, nella digital deluxe edition. Vabbè. E che poi tra l'altro un po' diciamo sulla falsa riga di quello che dicevamo, che questa è l'era dove sta nascendo anche questo nuovo filone di giochi, che definiti giochi è un po' così, insomma, nel senso, questi interactive fiction ne possiamo chiamare che so, storie interattive, tipo i giochi alla Telltale, e ne stiamo vedendo una certa moltiplicazione, fortunatamente, anche con risultati tecnici migliori di Telltale, che secondo me si è leggermente un po' accomodata sugli arlori, e questo probabilmente prima o poi sarà faremo, secondo me ci siamo quasi vicini, perché dovremmo fare una puntata, infatti, su Telltale, segniamoglielo. Sì, perché attenzione, non so se è un fake, io spero che è un fake, ditemi che è un fake, che è una cosa falsa, che vuole fare una storia, cioè un gioco su Minecraft. Spare vero, non pensa che è vera sta notizia. Madonna, vabbè, c'hanno il motore grafico, se lo possono permettere. Ho capito, ma Minecraft, Dio santo, cioè, ma vabbè, quello, cioè, il problema l'hai fatto su board, cioè, allora, il problema non è quello che mi stupisce, quello che mi stupisce è il fatto che tu, nonostante che prendi anche grossi brand, continui a lavorare tecnicamente sullo stesso presupposto tecnico precedente, perché voglio oramai da 3 anni tutto, sì, tutto. Va e bene, questo potrebbe okay essere la sua domanda, però io ti assicuro che escono giochi su mobile che sono 10 volte più belli tecnicamente, perché cioè ci sono sicuramente, questo è un mercato che comunque è appena abbozzato. C'è Cage che fa una porcata ogni 3-4 no, anni. No, non è vero, ma adesso stanno uscendo dei giochi. Il problema è che secondo me Telltale, sto dicendo, non si può permettere parlare, comunque va bene. Vabbè, dai, comunque, dai. No, dicevo questo. Che non è del Telltale che volevamo parlare, dai, stavo facendo un'altra cosa io. Comunque, stavo dicendo, stanno uscendo appunto questi nuovi giochi, tra i quali ovviamente c'è, penso esclusiva PlayStation 4, se non sbaglio. Questo gioco adesso non ricordo neanche come si chiama, che anche questo è un gioco un po'... From Dusk Till Dawn. Altra monta all'alba, magari. No. Tra Salma e Ecco, no, vabbè, niente. No, From Dusk Till Dawn, qualcosa del genere. Until Dawn, bravo, ok. Piano piano ci sono arrivato. No? Bravo, sì, esatto. Hai fatto dei collegamenti mentali tutti tuoi, esatto. Tra monta all'alba, per associazione, che anche quello riporta, ecco, anche quello sempre un po' alla giapponese, che però richiama, diciamo, certi stilemi del film, quello americano, quello dello psycho killer che sta dietro la porta e che ti spegne le luci e ti viene a romper cazzo, insomma. Però anche quello, vedi, dimostra che c'è comunque un po' di fermento. E tra l'altro, se non sbaglio, ah no, sto di Nastro Villaggio, è un altro gioco, è Strange Day, Strange Life, The Life is Strange, una cosa del genere, che invece è sviluppato da quelli là che avevano fatto quello là del fantasma che faceva l'investigazione su se stesso, là, pubblicato da Square Enix. Murdered. Esatto. Quindi, insomma, vedi, c'è speranza sempre per tutti. Vabbè, diciamo che, insomma, un certo tentativo di far ricrescere i giochi horror. Secondo me, magari in maniera diversa, l'horror non passa mai di moda, questo è una cosa importante. Però andiamo a cercare di rispondere alla domanda che era rimasta in sospesa prima, cioè nel senso, alla fine sti fan sono stati accontentati? Sono stati accontentati? Sì. Sono stati accontentati perché comunque è uscito Evil Within, che è stato Evil Within, che è stato un gioco molto pompato dall'autore originale del Resident Evil, dove si diceva si ritorna a quello che vecchio horror, esatto, vecchio horror, roba del genere, ed in effetti è stato parzialmente così, ma vecchio talmente tanto che pure il gioco è vecchio, anche se tecnicamente sì, è un bel gioco e no. Però comunque, cioè, è sempre il binarione. È un, no, super binarione. È un super binarione. Però io devo dire che tecnicamente, ribadisco, secondo me inadeguato ancora. Cioè, è superiore a tanti altri, magari inferiore a molte sue, diciamo, controparti contemporanee. Vabbè, insomma, sono secondo stati accontentati, comunque, se fanno o no. Secondo me, Diego Lirin, innanzitutto, ci tengo a dire che ha risolto in maniera geniale quella piccola la nebbia, no, a parte la nebbia, quella piccola, diciamo, quel piccolo anacronismo che deriva dal fatto che in questi giochi ci debbano essere gli enigmi. Allora, se tu vai in, cioè, però questa è la derivazione quasi, no, so di una stupidaggine. Sui vecchi giochi c'erano, cioè, gli enigmi, sì. In un Resident Evil, per dire, l'enigma, cioè fai il backtracking, vai, prendi la chiave, so, pure metti sei, una chiave rossa, pure Silent Hill era così, cioè, Silent Hill, esatto, però Silent Hill, Silent Hill erano pure era già, c'era già un po' la follia in un gioco come Resident Evil, non c'è la follia, c'è proprio gente che va a costruire una casa e fai porta a cazzo le cane, c'hai un architetto che è famoso di LSD, cioè diciamocelo, vai all'ultima stanza in fondo per prendere la chiave della prima porta, esatto. Cioè, che tu devi prendere l'architetto e cambiarlo, esatto. Insomma, però. Ma non è solo l'architetto, ma non solo quello, anche infatti, gente che sparge oggetti a caso per casa, gente, ho lasciato la chiave, quanto tesserino, chissà dove è finito. No, qui l'hanno risolto in maniera geniale, perché in realtà, a parte che c'è molto meno ambiente da esplorare perché sono tutti quanti micro aree, però essendo chiaramente un universo, un mondo di fantasia non realistico, quindi qualcosa di psicologico, non ho ancora finito, ma da quello che ho capito si capisce che quello che sta vivendo il personaggio non è una realtà vera, ma è una realtà quasi metafisica, quasi psicologica. È come se si stesse nella testa di una persona e quindi ci si materializzasse dentro la follia di una persona. E quindi questo dove risolvere alcuni enigmi ci può stare, perché è, diciamo, contestuale proprio alla situazione da malato di mente. Un gioco di questo tipo, ambientato in un mondo reale, tra virgolette, dove davvero devi andare a aprire la porta spingendo il pulsante che sta sulla tua sinistra, mettendo sopra la pedana e la statua, è molto poco funzionale a un racconto cinematografico. Cioè, funzionava magari negli anni 90-2000, ma oggi secondo me fare una storia molto cinematografica, molto, una trama bella pesante, bella sostenuta, e poi andare a fare questi enigmi, proprio slacci tutto, secondo me. Poi non so cosa ne pensate voi, e dopo ne parleremo. Per quanto riguarda il gioco vero e proprio, è una cosa che ricorda parecchio, forse in alcuni casi anche troppo, i vecchi giochi. I comandi sono scomodi, ma non scomodissimi, ci sta di peggio, cioè in realtà ci sono alcune scatti di inquadrature che magari dira. Possono non dire quelle dopo, no. Scatti di inquadrature che magari non si girano a dovere, cioè, c'è qualche problema tecnico che lì non è però perché sono loro che vogliono dare un taglio antico, e che secondo me non ci arrivano, non so. È proprio che gli manca la materia prima, quindi da un certo punto di vista hanno cioè nelle meccaniche, nel gameplay sono riuscito a rendere plausibili alcune situazioni, da una certa ansia. Però per quanto riguarda la parte proprio veramente horror, secondo me, magari come dice Giuseppe Saso, rimane survival, ma l'horror secondo me non mi mette paura, non mi mette l'ansia come mi poteva mettere un vecchio Resident Evil o un altro gioco, perché lì il protagonista è cacciatore. Tu non sei indifeso, non sei uno che scappa. Sei, sei, uno un, poliziotto. Che, sei un poliziotto che sai come, come ammazza la gente. Cioè, tu lo prendi le spalle e dai una coltella in testa. Però posso dire, a me, io ho trovato, cioè, nel senso, guardando quello che c'è da schermo, ho detto è sempre la stessa. Cioè, è giapponese è sempre lo stesso gioco, stessa cosa. Poi entri dentro la stanza con la musica del violino, con lo specchio, roba del genere. Quindi questo richiamo a un certo tipo di sonorità dolci in un contesto disturbante. Perché lì è la save room che deve essere rilassante. Sì, però è proprio classico, è proprio... tutto già visto, già tutto, certo, sentito, già tutto, certo. Niente che tu mi hai portato, insomma, alla fine sto gioco accontentati fanno o no? Parzialmente, cioè, mi piace che tu hai fatto tutta sta disamina. Sì, ma se tu te ne vai a bere, poi è ovvio che non capisci quello che hai detto. No, io ho capito quello che hai detto, non me ne frega un cazzo, sono andato a bere. Però dico, poi il succo è che parzialmente ci sono riusciti. Perché sono riusciti. Ma questa è una tua idea, cosa? Oppure hai avuto sentore sentendo, leggendo in giro? Che io ne non so. Non leggo, non sento in giro. No, tu leggi, però poi non lo assimilo. No, sì, guardo le figure, lo dimentichi. Guardo le figure, guardo le parole, ma non riesco a capire cosa ho scritto. La parola passa a loro. Passa a loro, dai. Okay, vai, Gianluca. Tanto mi sono spiegato. Io non l'ho giocato di Luigi. Però questa è la riga che questa è la riga la riga audio che no, però comunque sia, ho letto un po', ho visto anche dei video, delle recensioni. Io, appunto, non giocando il gioco, ho visto 20.000 cose già viste. Già questo, ti dico, io credo che nonostante io sia un fifone di fondo, forse non mi spaventerei, no, con The Evil Within. Ci sarà qualche cosa, qualche scena sicuramente più impressionante, però comunque vedo il tizio là col cappuccio bianco che compare dal nulla, scompare. Sembra la bambina di Fear, non so se ve lo ricordate. L'ho già visto. Fear faceva cagare parecchio addosso. Ma voi ricordate la scritta: questo gioco contiene scene di sangue, scene violente e di sangue, quello che c'era scritto all'inizio di Silent Hill. Ecco, sì, no? Sì, certo. Qui non viene riportato perché diciamo tanto tranquilli, non c'era niente. Tanto hanno giocato a Silent Hill, tranquilli. È una passeggiata. Appunto, cioè. No, quindi pure per te, secondo quello che hai visto tu. Non mi sembra. Io credo che sì. Allora c'era tutta questa attesa di Mikami che tornava alla produzione su un brand nuovo. Sicuramente un gioco che catalizza l'attenzione. E sicuramente un gioco che merita attenzione. Nel senso che si fa comunque un esperimento importante. È comunque un gioco d'autore. Però. Allora, io sinceramente mi aspettavo di vedere qualche cosa di più coraggioso. Avevano fatto parecchio rumore per questo gioco. Non so, leggo che ci sono diversi giocatori soddisfatti, altri un po' meno, molto controverso. Però non credo che abbia la forza di rimanere impresso per... Tra 2 anni forse non ce lo ricorderemo più di tanto, insomma. Infatti, prima di passare la parola a Marco, Marco, invece, ti domando se... È finito Devil Within, lo siamo andati a vedere al cinema, si sono accese le luci? No, scherzo. Cioè, metti l'ipotesi che fosse stato un film. Ah, ok, io non ho ancora finito, per cui non mi spoilerò. No, vabbè, non ti spoilerò il finale, però ti dico, comunque, per ora così, tu finisci di tutte le quote, si accendono le luci, che cosa faresti tu? Potrei alzare i piedi, esatto, di questo film è una cagata pazzesca. Non ho ancora finito, quindi non posso dirti. Però come se vuoi, dico io. Gianluca, vabbè, la bambina è fine. No, non me lo dico. Ho più o meno capito, però lasciamo stare. Secondo me, ti ripeto, hanno trovato altre volte il modo geniale per rimettere tutte quelle meccaniche degli enigmi, anche se so, ovviamente non sono gli enigmi che potevamo trovare sui vecchi Resident Evil, però rimettere qualche cosa che in una situazione reale sarebbe stata completamente decontestualizzata. Sono riuscito a ficcarcela lì dentro proprio per il tipo di ambiente che hanno creato, e quella è stata l'unica cosa veramente geniale, perché altrimenti sarebbe stato difficile metterlo. Ma per il resto non lo so, io secondo me, per cui passo la parola a Marpo, i giapponesi dovrebbero ritrovare un loro stile di gioco, bomba nucleare, qualcosa che sono bravi a fare, cioè secondo me non sono proprio più in grado cioè so veramente, anche tecnicamente forse artisticamente no, ma magari. Però tecnicamente sono proprio in affanno. In Giappone c'è un problema, che a un certo punto arriva uno che è completamente pazzo, fa una cosa completamente nuova, c'è successo e poi tutti, sì, lo vanno, tutti vanno dietro, è vero, quindi bisogna aspettare il prossimo pazzo che esce fuori. Sì, sì, esatto, esatto. Io ho molta moltissima fiducia nell'indie giapponese. Io credo che quando si innescherà veramente un meccanismo, un'industria indie in quella nazione, vedremo delle cose. Sì. Sì, ma io vedo esatto, i giapponesi molto più passivi che attivi per certe cose, rispetto agli europei per certe cose, quindi, sì, sai, ma perché loro sono abituati all'industria in senso classico, anche per quanto riguarda il videogioco, cioè il tipo che ti dà tutto organizzato con un'azienda che ti segue. Non sono tanto di slancio, ecco, come ti posso dire, però se ci riescono, qualche indie giapponese forte c'è stato in altri campi, però insomma in ambito dei giochi di ruolo ci sono delle piccole case che riescono a portare avanti la bandiera del, anche, del anche negli sparatutto, negli shoot 'em up. Mm-hmm, sì. Quindi qualcosa ce la fanno. Il map è un genere che per me tranquillamente non esiste, quindi esatto, cioè, senso, è una questione che proprio non mi interessa minimamente. Cerco qualcosa di forse meno ludico e più artistico per certe cose, insomma. Però vabbè, detto questo, vai Marpo, scusa che... No, anch'io non l'ho giocato, perché non è che l'hype mi avesse contagiato. Uno qua sta parte, mettila al rovescio, non la cancellà, però cerca di tenerti e tu me ne esci, te esci così, insomma. Ma non, tra l'altro, se cancelliamo il fatto che abbiamo detto che non ci abbiamo giocato, poi sembra che lo conosciamo il gioco, quindi basta che cancellate quella parte. Vabbè, perché oggi c'è YouTube, dai, cioè un gioco anche se non l'hai giocato, se vuoi lo conosci, insomma. No, perché il piacere sarebbe bello, ecco, sarebbe stato bello un Silent Hill nuovo, un Resident Hill nuovo, però non intenso che sia come quelli secondo altri, me loro vorrebbero, ma non c'hanno il coraggio, perché poi dice poi gli americani non se lo comprano. Boh, non lo so però se pensano questo. Forse dicono lo devono fare perché in questo modo, perché penso sì, come hai detto te, in fondo, se no gli americani non se lo comprano, però sanno che poi non è vero, dovrebbero saperlo che non che è vero. Che aspettative hai sul nuovo Silent Hill? Perché c'è un nuovo Silent Hill? Ce n'è sempre uno nuovo. Ma per esempio, il modo in cui hanno fatto il reboot su Nintendo del Silent Hill, quello che tu stai dallo psicologo, che ripercorre la storia del primo, quello, Shattered quello Memories. Mi è piaciuto. Quella è stata geniale come idea. Poi magari non so il gioco com'era, perché non l'ho giocato. Però già l'idea è un modo di riproporre, cioè nel senso, raga, io più di questo non posso fare. Anche The Room non era male. The Room non sì, era no. Oh, io dicevo quello di Benicio del Toro là, ma che cacchio è? No, chi c'è stato? Ah, Silent Hill, quello nuovo che deve uscire. Già, hai ragione, quello che c'è una hype fortissima. Sì, io ce l'ho un po', sì, quello mio al day 2. Poi quando si sbloccherà la New Nightmare Plus, la nuova partita, ci sarà protagonista con la balestra, insomma, è normale. Certo, ci deve essere la citazione a The Walking Dead, dice. Non lo so, però un Silent Hill vecchio stile, a me quello che mi inquieta è sta mistura Silent Hill e Kojima, che io mi aspetto che arriva gente, però io devo ammettere, voi sapete io non sono un fan di Kojima, però devo ammettere che forse tra quelli che veramente possiamo considerare veramente gli autori, lui ha un valore autorale forte. Vabbè, okay, certo, sì, sicuramente. Perché molti dicono, ah, quello autore, cioè, raga, tante volte alcuni sono stati pure botte di culo, no? Nel senso, cioè, magari grandi intuizioni in un'epoca particolare, però ecco, vedi, già il fatto del Resident Evil ti dimostra quanto tipo... poi Resident Evil... tipo... però vabbè, comunque, dai, torniamo al discorso, scusa, finisci Marpo così. No, l'attesa c'è ancora, come se... stiamo ancora aspettando il nuovo messia, quindi dell'horror inquietante. In maniera un po' così, diciamo, siamo arrivati quasi transitori all'ultima domanda, cioè se siamo poi appassionati, ma anche se non lo siamo appassionati, che ci aspettiamo per il prossimo futuro? Partiamo da Gianluca, che Gianluca studia tutte le cose che escono su Steam, quindi sai un po'... No, ti ho detto, io se dovessi esprimere un desiderio vorrei che i giapponesi cominciassero a sfogarsi con l'indie, cioè abbandonare tutte le logiche di mercato alle quali tutte le varie case di produzione tipo Capcom, Konami sono legate oggi, prendendo hanno preso delle cantonate terribili in questo modo, e sfogare la fantasia. Io penso che nella fantasia dei giapponesi ci siano delle idee mai esplorate che possono far paura, come diceva Marco, ma in senso positivo, ma perversa. Però tu abbina quella perversione all'horror e ti viene fuori Siren, che secondo me aveva tanto detto delle mutanti assassini. Esatto, tra l'altro cercatevi su YouTube il trailer del una roba sexy zombie, toilet zombies, roba del genere. Vabbè, questo, esatto, è per dire la demenzialità e le idee giapponesi. Però ecco, ci può essere un bel potenziale ancora lì da esplorare. Come poi si chiama? Secondo me l'horror Toilet Zombies, credo. Guardate, è tremendo, eh. Il film è tremendo. Posso immaginare. Zombie Toilet. No, comunque gente che vola coi piedi, vi dico solo questo. Non riusciamo a trovarlo. Zombie S Toilet of the Dead Zombie Asu Trailer, che tra quello? Sì, può darsi. Mi inquieta questa cosa. Forse è quello dopo. Sì, molto inquietante. E vabbè, comunque va bene, è una stupidaggine. E comunque dico, secondo me il genere horror non è in un grandissimo momento, quindi sarà non troppo difficile, con un po' di coraggio, risollevarsi dalla stagnazione attuale. Ripeto, facciamo il tifo per Haunted House dei Dream Painter e per anche il nuovo Alone in the Dark, che dovrebbe uscire tra un pochino, mi pare si chiami Illumination, quindi speriamo bene. Ok, Marpo? Io rinnovo la mia speranza nel mondo degli indie, sia giapponese che comunque internazionale, che secondo me una grande casa non riesce a puntare troppo sull'estremo in un modo o nell'altro, anche sia nella storia che nelle ambientazioni o anche negli effetti gore. Poi i giapponesi sì, hanno un immaginario ricchissimo e inquietante, devono liberarsi del gameplay, forse quello sì il problema loro. Cioè, sto vedendo questo filmato giapponese. Guarda, i zombie giapponesi sono brutti, ma quelli particolarmente, anche perché trasmettono il morbo in un modo un po' particolare, un po' particolare addosso, no, escono dalla tazza. Ah, no, questo è già uscito. Cioè, questo lo tiene. C'è un dottore che lo tiene per il collo e lo prende a cazzotti con un guantone a boxe. Il zombie soffre. Cioè, veramente sono sconcertato. Perché veramente qualsiasi cosa che tu vedi fatta dai giapponesi è peggio di quello che ti vuoi aspettare. Veramente. Sì, va bene. Allora, ragazzi, tu, Marco, invece, che ti aspetti dal futuro? Ecco, comunque, questi zombie toilet è bellissimo. Insomma, no. Sta vomitando feci. Questa. Certo, lo prende a pugni e poi, poi lo fa baciare. No, no, non la voglio vedere questa cosa. Ma che schifo, ma che cazzo. Ma scusa, zombie toilet, che ti aspetti? Anzi, toilet zombie, zombie. Sì, il tipo. Vabbè, no, veramente è disturbante tutto questo. Vabbè, comunque, Marco, che cosa mi aspetto? Mi aspetto cose di te lo levo fare. Perché sennò me lo guardo. No, però è bello, cioè, io poi mi viene da guardarlo e non so, dura un'ora e 24, il film intero. Potremmo anche non vedercelo senza sottotitoli, senza niente, tanto. E penso che sia divertente in lingua uguale. Comunque no, è bello, secondo me è bello il futuro giapponese pieno di mutandine e tale zombie, potrebbe spaventarci come anche no. Non lo so, ma anche quello europeo, tutto sommato, a parte gli Slender che ora li mettono dappertutto, potrebbe anche farci scoprire cose nuove. Però sarà sempre purtroppo un problema di poco mercato, secondo me, diciamo nella torta, la fetta horror. Secondo me il problema è che c'è talmente poca che o la fanno molto bene o se no si va a morire. Bene, allora noi come al solito non usciamo con una soluzione, diciamo, dei problemi. Noi facciamo delle discussioni, delle domande, diamo altre domande. Come già Robbo, ci poniamo domande. Robbo ci ha fatto non so se quante puntate. Ingigantiamo il problema e facciamo uscire tutti con delle domande. Però abbiamo fatto come al solito la nostra discussione che vi, insomma, speriamo vi sia piaciuta e magari poi partecipate, suggerite, magari poi torneremo anche a parlarne se comunque ci possono essere dei nuovi spunti. Detto questo, andati veramente molto molto molto lunghi, quindi passiamo velocemente la parola a Carlo Burigana. Amici di DVL e collezionisti di effetti sonori, bentornati alla mia rubrica Passione Sound Design. Io sono sempre il vostro sound designer Carlo Burigana. Come nello scorso episodio partiremo per un viaggio a bordo di una nave spaziale, però stavolta ci addentreremo da soli all'interno di corridoi bui e su pianeti inospitali, braccati da terrificanti e deformi insidie non morte. Seguitemi quindi in un'analisi del comparto sonoro di Dead Space. La serie Dead Space nasce nel 2008, ad opera di Visceral Games, software house californiana un tempo conosciuta col nome di EA Redwood Shores. Dead Space è un titolo action survival horror in terza persona, che ci mette nei panni, anzi nella tuta spaziale di Isaac Clarke, un ingegnere minerario che prende parte alla missione di recupero della USG Ishimura, una fregata spaziale partita con il compito di ricavare risorse energetiche da altri pianeti, dato che la Terra ha ultimato le proprie. Una volta a bordo, la Ishimura si rivela una trappola mortale per la squadra di soccorso, poiché il suo intero equipaggio è impazzito e si è tramutato in esseri deformi chiamati necromorfi, per via di un manufatto maledetto portato sulla nave. Prima della serie Dead Space, loro primo esperimento a tema survival horror, i ragazzi di Visceral Games si sono occupati anche dello sviluppo de Il Padrino, side story tratta dal celebre film di Coppola, uscito nel 2004 per PC e console, e che al tempo proponeva un cast di doppiaggio italiano davvero gremito. Anche se purtroppo, come spesso accade nelle trasposizioni videoludiche di prodotti cinematografici, nessuno dei nomi presenti nella lista aveva preso parte alle lavorazioni di doppiaggio del film. Che cosa vuoi dal capo? Ha da fare? Quanto fedele sei ai trattaglia? Ti pagano quello che meriti. Adesso sì che ci capiamo. È di sopra, probabilmente lo puoi sentire. Il cast di doppiaggio statunitense di Dead Space è composto da attori di cinema e serie TV non particolarmente famosi. Nel ruolo del protagonista Isaac Clarke troviamo l'attore Gunnar Wright, già visto in J. Edgar, dove interpretava Dwight Eisenhower, e in altri ruoli minori di film e telefilm. A dirla tutta, il suo apporto vocale, perlomeno sul primo capitolo di Dead Space, è drasticamente ridotto, visto che per tutta la durata del gioco il suo personaggio si esprime solo attraverso rantoli e gemiti di dolore o fatica. Le cose cambiano sugli altri due capitoli della serie, in cui Isaac diventa un vero chiacchierone. Ascoltiamolo. There are necromorphs everywhere. Is the entire sprawl infected? How this happened? The marker was destroyed, Dana. I destroyed it. You destroyed a marker, Isaac. Tyvan built another one. On this station? Why? It's powerful alien technology. Tyvan wants that power. La scelta artistica di non dare una voce al protagonista di un videogioco è stata condivisa anche da altre produzioni passate di grande successo. Tra tutte ricordiamo la saga di Zelda e quella di Half-Life, in cui i due protagonisti, Link e Gordon Freeman, non emettevano suono rispetto a tutti gli altri personaggi di contorno. Questo, a detta di alcuni, servirebbe ad incrementare l'immedesimazione del giocatore nelle vicende del gioco, anche se personalmente l'ho sempre trovata una scelta discutibile, che si ripercuote più che altro sul carisma dei protagonisti e sull'esperienza cinematografica offerta dal gioco. Per fortuna, comunque, è una tecnica in disuso. Anche per questa serie l'edizione italiana è stata curata da Synthesis International a Milano e propone nel cast vecchie conoscenze del doppiaggio videoludico come Matteo Zanotti, che doppia Jacob Temple. Registro personale, ufficiale tecnico Jacob Temple. E Claudio Moneta, nel ruolo di Gabe Weller. Computer, localizza il rig 784283. Interrompi e agire. Autorizzazione Gabe Weller, Tango Beta 3. Il protagonista, Isaac, è stato affidato a Diego Baldoin, che ascoltiamo. Dannazione, è come pensavo. Che c'è? La centrifuga gravitazionale è in riparazione. Dovrò scendere sul ponte tecnico. Dovrebbe essere interessante. Siamo sicuri? Non so proprio che dirti. Ti farò sapere. Nel terzo capitolo, ad interpretare Mark Rosen, troviamo anche Maurizio Merluzzo, già conosciuto per il suo canale YouTube Cotto e Frullato e per essere la voce ufficiale di Disney XD Italia. Tutti i lunedì alle 19:20 a Disney XD. Solo su Sky, canali 616 e 617. Sul primo capitolo di Dead Space c'è anche una presenza illustre proveniente dal cinema horror italiano, il maestro Dario Argento, che nel gioco interpreta il dottor Terence Kine. Mi chiamo Terence Kine, dottor Kine, Ascoltami, non c'è molto tempo. Purtroppo, per quanto la scelta di coinvolgere un genio dell'orrore fosse dannatamente contestuale al genere proposto dal titolo in questione, svariati videogiocatori hanno espresso perplessità per la performance vocale di Dario Argento, che ovviamente ascoltiamo. Se te ne vai adesso, condannerai l'umanità. Il pianeta non si fermerà mai se non restituiremo il marchio. Non capisci? Ok, ok, un attimo, fermi tutti. Curiosità. A distanza di neppure un mese dal lancio del primo Dead Space, il team svedese DICE, sotto il marchio del gigante EA Games, sforna un altro titolo che avrebbe catturato il cuore di molti videogiocatori. Cosa hanno in comune Dead Space e Mirror's Edge? Apparentemente nulla, tranne il publisher Electronic Arts, ma ascoltiamo la voce della protagonista del gioco. Un tempo la città vibrava di energia. Sporca, pericolosa, ma viva e magnifica. Ora non è più così. Esatto, si tratta proprio di Asia Argento, che nella versione italiana del gioco doppia Fate. Coincidenza? Probabilmente non lo sapremo mai. Il sound design del titolo è a dir poco eccezionale. Il team audio di Visceral ha saputo creare delle atmosfere davvero terrificanti, utilizzando e miscelando tra loro dei suoni apparentemente innocui, come ad esempio delle stoviglie che cadono in terra o dei tremolii metallici. Il tutto arricchito da droni di bassa frequenza costante per ricreare gli ambienti abbandonati della USG Ishimura. Per la creazione del suono dei necromorfi, il team di sound designer ha utilizzato per lo più urli e suoni gutturali umani, modificandone pesantemente la modulazione e l'equalizzazione, realizzando versi disturbanti. Uno dei sound designer si è ispirato al pianto della sua nipotina in fasce per ricreare il verso dei feti necromorfi. La matrice splatter del titolo, in cui ci troviamo a smembrare e spappolare i necromorfi, è stata enfatizzata da effetti sonori registrati in esterna, di frutta presa a calci o colpita con svariati attrezzi. La manipolazione di frutta, verdura o di carni è una tecnica piuttosto utilizzata anche nel sound design dei film e telefilm dell'orrore, in cui possiamo ascoltare dei suoni inquietanti come questi. Altro plauso al team di sviluppo va fatto per aver ricreato il suono del vuoto e degli ambienti in assenza di gravità in cui spesso Isaac si troverà a vagare. In quei momenti ascolteremo soltanto i rantoli provenienti dalla tuta di Isaac e delle frequenze molto basse prodotte dalle vibrazioni attorno a lui. Il tutto accompagnato dal suono dell'indicatore di ossigeno del protagonista. Davvero efficace. Parlando di salti dalla sedia, beh, diciamo che in questo Dead Space la s'allunga. Fatta eccezione per la deriva più action del terzo capitolo, i primi due riescono a offrire dei momenti davvero alti in quanto a spavento. Questo perché l'incontro con i necromorfi è sempre accompagnato dall'aumento improvviso di volume di effetti sonori e dalla comparsa di musiche dal ritmo concitato. Un vecchio trucco anche questo ereditato dal cinema horror, ma lo spavento è assicurato. Infine, la colonna sonora composta da Jason Graves è in parte realizzata presso gli Skywalker Sound Scoring Stage in California. Come accennavo prima, anche il comparto musicale ha pesato moltissimo sull'enfasi generale degli ambienti della serie Dead Space, essendo anch'essa composta per lo più di sonorità non musicali. Lo scopo, come afferma lo stesso Graves in un'intervista, era quello di spaventare i giocatori. E cosa c'è di più spaventoso di qualcosa che non comprendiamo? Per questo la musica del titolo doveva avere un sapore sconosciuto all'ascoltatore ed essere meno musicale possibile. Dead Bene amici, anche per questa puntata è tutto. Io vi do appuntamento al prossimo episodio di Passione Sound Design. Vi invito come sempre a seguirmi e a lasciare i vostri commenti su Dietrologia Videoludica, di visitare il mio blog personale www.carlomix.blogspot.it e di iscrivervi con un mi piace alla pagina Facebook ufficiale di Passione Sound Design e di condividerla con i vostri amici videogiocatori per supportare il progetto. Alla prossima puntata! Grazie ancora una volta a Carlo Burigana che una volta ogni due puntate, cioè una puntata sì, una puntata no, ci offre queste grandi perle con Passione Sound Design, che troverete anche ovviamente la pagina Facebook dedicata a Passione Sound Design, quindi relativo canale anche SoundCloud. No. Fra l'altro spettacolare questa puntata di ora. Non so cosa vuoi fare, non lo fare. E sì, tra l'altro ecco veramente rubrica che ha dato sommo prestigio insomma alla nostra trasmissione, quindi noi lo ringraziamo. Perché forse mi piace solo quella e basta, quindi. Ma che esatto, potremmo anche fare solo un canale YouTube solo di quello. E Marco, insomma, interessante anche questa disamina. Hai andato, sì, poi hai andato a cogliere poi le criticità anche, insomma. Tommaso, abbagliata, buona col negro morto, si sta bene. No, diciamo che quello è un gioco che, come diceva Carlo, anche a me non piace per niente il personaggio muto, insomma, non, ma neanche, cioè, almeno il sottotitolo, cioè quello che si faceva con Skyrim, che mettono i sottotitoli, cioè, perlomeno, niente, proprio sta lì un fantoccio, quindi non piace neanche a me. Il sound design invece è stato molto, molto buono, soprattutto nei primi due, perché comunque già il suono, il metallo, la cosa che si rompeva. Diciamo, le cose che le camminavano, le verdure tratte sfrante, sì, esatto, povere verdure, mercato generale, insomma. Comunque è un gioco che sicuramente pure quello mi ha fatto venire veramente l'ansia. Il primo, il secondo, il terzo purtroppo vabbè, un po' più sparato, sparazioni, quindi un po' meno spaventoso, però sono pienamente d'accordo con la diciamo la disamina, che sei d'accordo, la recensione del sound design di Carlo. Lui è un professionista, lo saprà lui, insomma, quello che no, se ti era piaciuto comunque come approfondimento, sì, infatti, no, interessantissimo. Gianluca? No, bellissimo, bellissimo davvero. Poi chiaramente quando è un professionista che parla ti fa notare delle cose alle quali non penseresti mai, insomma. Devo dire che su questo campo tra gli indie e il AAA c'è ancora tanta tanta roba da recuperare, insomma, c'è tanto gap. Vabbè, da anche, riempire, è anche ovvio, perché d'altronde lì è il budget, è ovvio, è inevitabile, soprattutto è inevitabile, non puoi avere dei sound designer di quel livello altrimenti, no, infatti. Marpo? Faccio notare solo la piccola punta di sadismo nel far notare Dario Argento, poi tornare indietro da Asia Argento, come a voler essere contagiata da quest'aria horror, insomma. No, infatti un po' di faziosità in però, realtà un po' di faziosità, no, diciamo, in realtà lo diciamo in teoria potremmo non dirlo, ma lo diciamo uguale. In realtà oggi la passione sound design doveva essere un'altra, però dato che la puntata c'era questo tema qua, abbiamo preferito poi fare inserire questo. L'ha preferito ovviamente Carlo perché dice beh, forse è più attinente. Infatti all'inizio lui dice una cosa che in teoria fa capire che non era proprio questa la puntata nella quale era dedicata, però è interessante. E mi piace in Passione Sound Design il fatto che lui comunque i richiami a altri doppiaggi o altri giochi, mm-hmm, o altre cose lo fa sempre, insomma. Quindi è veramente una ricerca che lui fa. Voi immaginate, insomma, è vero che lui è un professionista e tutto quanto, ma fare la ricerca, recuperare il materiale anche sonoro, registrare comunque e poi mixare tutto, ovviamente poi con la qualità con la quale viene registrato, insomma, immaginate. Ruba risorse della Fox, quindi cioè, fa benissimo. Sì, no, non usa le risorse della Fox, diciamo no, stronzate. No. Però è bello pensare che lui che ruba le risorse della Fox. Risorse della Fox, quello sicuramente. Molto orgoglioso. Comunque, vabbè, insomma, lo ringraziamo. Allora, per questa puntata siamo andati lunghissimi, quindi la posta la cancelliamo completamente. Sì, ma io cancelliamo anche Marpo, così esatto, recuperiamo un quarto d'ora, almeno, esatto. Quindi andiamo a salutare prima ovviamente l'ospite, che spero non sia un ospite, nel senso che siamo una traccia fantasma, che diventi, insomma, che voglia poi diventare anche lui parte integrante del progetto di DVL, perché insomma i suoi contributi, sapete, Essendo abituato a dietrologia, a archeologia videoludica, dove io bisogna detto, studiare tantissimo, cambiare nomi, cambiare podcast A, so, podcast B, sì, e podcast C. Hai ragione. È abituato a V, che ovviamente bisogna studiare tantissimo, qui è un po' più semplice il discorso. In realtà bisogna avere delle opinioni da esprimere e proporre anche dei temi di discussione. Quindi insomma, Gianluca Santilio, grazie di tutto. No, grazie a voi, io mi diverto tantissimo a fare le puntate, perché poi io mi diverto ad ascoltare le cose di archeologia videoludica, insomma di VL, quindi a farle sempre, di ascoltarle in anteprima, quindi è fantastico. Grazie a voi, sì. Tanto vi sei considerato che fai anche tu. Mi trovate sul canale che si chiama come me, Gianluca Santilio, oppure su Steam Raiders, dove mi occupo di Santilio, dove mi occupo di dei titoli su in uscita su Steam praticamente. Okay. Si chiama Steam Raiders, quindi facile. Per un po' di tempo è stato assente il buon Gianluca perché problemi tecnici vari molto complicati da risolvere e soprattutto senza i quali, cioè senza le questioni, insomma era difficile ovviamente risolvere. Mi raccomando, soprattutto Steam Raider, ma seguite anche il canale YouTube di Gianluca Santilio, perché capirete anche per quale ragione abbiamo poi chiesto a Gianluca di aderire anche a archeologia videoludica, perché in realtà lui ha questo canale dove fa un percorso sul retro gaming, ma veramente fatto bene, ben classificato, ben organizzato, insomma è un lavoro quasi museale sotto certi aspetti, quindi mi fa piacere veramente, io l'ho scoperto lì, e oltre insomma poi mi ha fatto piacere anche insomma aver aggiunto questa conoscenza a quelle, la schiera dei miei tra virgolette amici, insomma. Marpo, piacere mio. Ciao a tutti. Mi trovate sulla concorrenza su Retrocast, che non è la concorrenza perché coproduce con noi sta trasmissione, quindi cioè, mettendo sempre l'accento sul copro, soprattutto esatto. Copro, sì, sì. E niente, è sempre un piacere parlare con voi. Ok, tu non c'hai riferimenti, cose no non c'ho riferimenti, e non mi venite a rompere i coglioni, soprattutto manco c'è sto, manco forse anche ne mi sentirete, parlo a vuoto. Vabbè, io t'ho registrato, se non altro, quindi su questo siamo sicuri, insomma. Ma non sappiamo se anch'io abbiamo registrato noi, esatto, non sappiamo se ci siamo registrati noi, sarebbe bellissimo. Ma ci sarò solo io, quindi può essere, sì, tutta la puntata si dura 20 minuti, potremmo metterla sì. In sovrimpressione con la vecchia e magari esce qualcosa di interessante, che può dire? Dice a incrociarle le... sì. No, perché sai che parlavamo delle esclusive, sì vabbè, dai Marco, saluta. Io saluto tutti quanti, sono come al solito bere come me stesso su Google Plus, su Opus o su Facebook, o sono Gioconno pure su Twitter e basta. Ok, va bene. Allora, www.dietrologiavideoludica.it è il nostro sito. Dietrologia Videoludica lo trovate su iTunes, su Facebook e su Google Plus. Chiaramente, dietrologiavideoludica@gmail.com è la nostra mail, che tanto non la utilizzate neanche se ve sparano. E Dietrologia Vide è il nostro Twitter. Detto questo, ci vediamo alla prossima puntata fra 15 giorni. Che vi potrei annunciare, ma non vi annuncio perché ancora non siamo sicuri. Insomma, quindi noi prepariamo di vero. Dateci un po' di tempo per organizzare, perché voi fare una puntata ogni due settimane è un delirio. C'è stato un momento in cui una settimana abbiamo lavorato tre puntate contemporaneamente, quindi figurate voi. Va bene, grazie a tutti, ancora buon anno e ci vediamo con questa seconda fase di terza stagione di Dietrologia Videoludica e tutti i podcast di PM. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao ciao. Flawless victory. When you're ready to ride Metro, we want you to know we're ready for you. Here are just a few of the people at Metro to tell you how we're doing our part to keep riders safe. We're cleaning like never before, with hospital-grade cleaning. You'll find hand sanitizer stations all over the Metro. No mask, no Metro. Need one? We have a few extras. At Metro, we're doing our part to keep the DC area moving. Find out more at WMATA.com/doingourpart.